25 aprile 2020. Agenzia X presenta Maratona di lettura su Radio Virus. Trasmissione del testo integrale con 55 lettrici e lettori di La carezza e la mitraglia, romanzo di resistenza a Marzabotto di Massimiliano Gollini. La storia di una ragazza che diventa cecchino in un gruppo di assalto partigiano. Audiolibro musicato in 5 puntate da martedì 21 al 25 aprile su Radio Virus a partire dalle 21 del 21 aprile. Buon ascolto. Benvenuti a tutti a questa maratona di lettura con il romanzo appena uscito per Agenzia X, La carezza e la mitraglia. Romanzo di resistenza a Marzabotto di Massimiliano Gollini. Voglio ringraziare tutti i 55 partecipanti a questa maratona. È un libro di oltre 300 pagine che abbiamo fatto registrare a tutti i nostri amici, lettori, lettrici. Voglio ringraziare anche Radio Virus, questo esperimento straordinario di radio comunitaria. Partiamo subito con un'introduzione molto breve di Massimiliano Gollini, l'autore, che ci spiegherà il libro. La carezza e la mitraglia è un romanzo storico ambientato a Bologna sugli Appennini dal 1937 al 1946. Racconta la storia di tre personaggi attraverso tre piani narrativi distinti. Il primo segue il corso degli anni e ha come protagonista Elena Beltrami, ragazzina di famiglia benestante, con il padre fascista, che decide di aderire alla resistenza per diventare partigiana combattente. Il secondo si sviluppa in una giornata, il 17 aprile 1945, e racconta di Anima, cecchina partigiana appostata nei boschi per uccidere Walter Reder, comandante del battaglione SS, responsabile delle stragi di Montesole. Il terzo è il racconto del ritorno in città dopo tanti anni di un soldato partito per la guerra. È ambientato a Bologna la mattina del 25 luglio 1946. Solo nel finale i fili narrativi si collegano e completano la storia. Il primo a leggere si chiama Valerio Canè. 25 luglio 1946, giovedì. Il giorno in cui tornò non aveva niente. La mattina era già immersa in una bolla di caldo così spessa che i palazzi e le strade sembravano soffocare. L'aria tremava. La città era silenziosa, in attesa. Non era facile camminare per quelle strade distrutte, schivando buche e macerie. I ricordi si sovrapponevano. Nemmeno i vestiti erano suoi. Quelli che indossava li aveva avuti da un inglese sulla nave. Un tizio dai capelli rossi e la pelle così chiara da sembrare trasparente aveva preso i suoi stracci senza un commento, dandogli in cambio dei pantaloni di tessuto marrone, una camicia bianca e un paio di bretelle. Tutto almeno 3 taglie più grandi della sua. Il giorno in cui tornò era giovedì. Se fosse capitato in città di domenica, avrebbe potuto vedere gli uomini stretti in gruppetti nella piazza maggiore, scambiarsi notizie, raccontarsi le proprie storie, commentare le mosse che la nuova Italia stava facendo. Ma quando lui arrivò, le uniche persone che vedeva sembravano disperse in cerca di frammenti di una vita che non c'era più. La città era in ginocchio, provata da anni di guerra, fame, solitudine, parole non dette. Ma non era sconfitta. Aveva resistito. Il giorno in cui tornò era il 25 luglio 1946 e non aveva niente, tranne una promessa, un ricordo e un indirizzo. Prossimo a leggere si chiama Cristina La Tessa. Diciassette aprile 1945, martedì, ore 5:37. Anima. La ragazza appoggiò il fucile accanto a sé, il calcio a terra e la lunga canna contro una roccia di granito che sbucava dal terreno. Non voleva che l'umidità entrasse nell'otturatore e nemmeno che rovinasse il meccanismo di scoppio. Dopo le modifiche, il Mosin Nagant russo era diventato un'arma di precisione, ma leggero e delicato, una cosa di cui avere cura. Si sfilò dalle spalle il piccolo zaino, estrasse una delle borracce e beve 3 sorsi d'acqua, a breve distanza uno dall'altro. Asciugò le labbra con il dorso della mano e rimise la fiaschetta al suo posto, sistemando la sacca tra le gambe. Appoggiò la schiena contro il tronco del faggio, strinse gli occhi e rimase in attesa. Il cuore copriva tutto, lo sentiva battere con forza, e non riuscì a capire se era per la lunga camminata o per l'emozione. Spinse una mano sul petto e cercò di calmarsi, controllando il respiro, ma non servì. Aveva percorso il tragitto con passo veloce, testa bassa, sguardo sugli scarponi, e non c'era stato verso di rallentare il passo, nemmeno provandoci con impegno. Era entrata nel bosco a valle, aveva guadato il torrente e iniziato la salita che partiva dall'altra sponda, raggiunto il punto prestabilito, lasciato il sentiero e conquistato la vetta seguendo una linea retta. La foresta era così buia che era stato difficile distinguere gli alberi a pochi metri di distanza. Una volta arrivata sul crinale, aveva iniziato la breve discesa. 2 ore di salita e 20 minuti di discesa per accorgersi che era più difficile scendere che salire. Tenendo sempre gli occhi chiusi, tolse il berretto e si passò le mani fra i capelli, formando una piccola coda sulla nuca che poi legò con un fermaglio. Fece tutto con rapidità e precisione, e quando fu certa che nessun ciuffo fosse rimasto fuori dall'allegatura, prese nuovamente il cappello e se lo sistemò in testa. Era in posizione. Riaprì gli occhi. La vallata era avvolta nell'ombra e il bosco era un'enorme macchia scura. Sentì un leggero vento salire dal basso. Era solo una brezza che si muoveva a ondate, ma portava con sé il freddo della notte. La colpì il silenzio. Era stata così concentrata sul cammino che non si era resa conto dell'assenza di qualsiasi rumore. Si trovava in quel momento del giorno in cui i grilli smettono di cantare aspettando gli uccelli del mattino. Aveva avuto molte occasioni di muoversi di notte nel corso degli ultimi 20 mesi trascorsi nella guerriglia partigiana, ma non si era mai soffermata ad ascoltare. E in quel momento ebbe l'impressione che il mondo dovesse ancora prendere forma. Diede agli occhi il tempo di abituarsi. Se avesse potuto vedersi, avrebbe notato subito lo sguardo da predatrice che aveva stampato in viso. Uno sguardo concentrato, puntato dritto là dove c'era il bersaglio. 300 metri più a valle, in una radura tra i faggi, dove il torrente creava una piccola ansa e il declivio rallentava la sua corsa, il casolare pareva senza vita. Ma lei sapeva che non era così. Poteva sentire l'odore di fumo e percepire la presenza di soldati oltre quelle mura. Sulla destra vide il lume di una sigaretta accesa. C'era una sentinella in cima al granaio, proprio accanto al casolare, dall'altra parte dell'aia. Doveva essere un ragazzo, ignaro di ciò che stava succedendo e troppo sicuro di sé. Ma non era lui il suo obiettivo. Appena sotto il tetto, sul lato sinistro della facciata posteriore, e proprio di fronte a lei, una piccola finestra era chiusa. Dietro a quella finestra c'era una camera. Nella camera un grande letto matrimoniale e accanto al letto una vasca da bagno di stagno. Che situazione stupida, pensò. Eppure era così che stavano le cose. Ogni 2 giorni, verso il tramonto, Walter Reder, comandante del 16 SS Panzergrenadier Division Reichsführer SS, responsabile materiale degli eccidi di Montesole e Marzabotto, si immergeva nell'acqua, guardando la montagna, mentre un grammofono diffondeva nel bosco il Tannhäuser di Wagner attraverso la finestra aperta. Dalla sua postazione ne avrebbe visto solo la faccia soddisfatta. Un colpo, uno solo, in mezzo agli occhi, e la guerra sarebbe finita. A questo pensò Anima nel buio della montagna. La fine della guerra. Uccidere un ufficiale tedesco. Colpirlo nel suo quartier generale. Una pallottola caduta dal cielo. Una sentenza divina. La guerra finisce oggi, sussurrò. Le parole evaporarono a 5 centimetri dal viso. La fine della guerra, che in qualche modo e da qualche parte aveva avuto inizio. Prossimo a leggere è l'autore del libro, Massimiliano Gollini. Luglio 1937, giovedì, Elena. Bologna era un disco di mattoni gettato sulla pianura. Nel punto in cui si trovava, riusciva a contare le torri, a scorgere le cupole delle chiese, a sorprendere le piazze e i giardini farsi largo tra le case, ma anche individuare il punto esatto nel quale le strade maestre si scioglievano in una miriade di vicoli trafficati entro le mura della città medievale. C'era un'aria sospesa e felice in quella mattina di luglio, così trasparente da poter lanciare lo sguardo fino al mare, se solo lo avesse desiderato. Ogni angolo del paesaggio era a sua disposizione, i pioppi che delimitavano i poteri, i campi di grano appena mietuto, quel cielo senza nuvole e senza fine, perfino le montagne, il cui profilo azzurro si stampava lungo la linea dell'orizzonte, disegnando il confine sud di quel mondo straordinario. Spesso si arrampicava sulla vecchia quercia accanto alla villa dove abitava e guardava quel paesaggio liquido per ore, sentendo la vertigine. Chiudeva gli occhi, poi li riapriva, poi li richiudeva. Allargava le braccia come antenne e percepiva l'energia sommersa, quella forza che pulsava sotto i portici e che annodava le cose tra loro come perle di una collana. In quelle giornate estive, il calore che saliva dalla terra faceva tremolare l'aria, dando l'impressione che la città potesse trasformarsi in una di quelle macchine volanti di cui tanto si parlava, e poi decollare. Vide l'asino Anacleto immobile sotto di lei. Passava giornate intere a dormire nel suo recinto e questa era una cosa inaccettabile. Lo guardò con un sorriso, poi prese dalla tasca i sassi che aveva portato con sé e li soppesò tra le mani. Il primo tiro colpì la schiena, il secondo la pancia rotonda, nella parte alta, a destra, il terzo andò a vuoto, odiava i tiri sbagliati. Lasciò la posizione che aveva scelto e raggiunse l'esterno della chioma, si appoggiò al ramo con le spalle, spinse forte sui piedi, poi chiuse gli occhi e respirò. Tutto dipendeva da quegli ultimi due tiri, era una questione di importanza assoluta. Cercò di calcolare la distanza, 20 metri o qualcosa di più. Quando se la sentì, fece partire due lanci veloci, diretti, con poca parabola. Colpirono Anacleto nel punto prestabilito, provocando uno scatto in avanti dell'animale e un raglio di protesta. «Ha! Perfetto!» esclamò la ragazzina. Quella mattina aveva indossato il suo vestito preferito, un abito rosso senza maniche con fiorellini gialli e una gonna che sua sorella aveva catalogato come assolutamente fuori luogo. A lei piaceva. Era comodo e fresco e le permetteva di muoversi come voleva, senza opporre resistenza. Si era arrampicata lasciando i sandali sull'erba e adesso sentiva la superficie ruvida della corteccia sulle piante dei piedi. Dopo aver tirato i sassi, decise di raggiungere la parte più alta dell'albero per un'ultima vista della città. Lo faceva raramente perché i rami diventavano instabili e non si sentiva sicura. Però era un'emozione che ogni tanto aveva bisogno di provare, sfidare il proprio limite, fare un passo oltre l'ultima linea, entrare in un mondo che non le apparteneva. Da lì le cose sembravano diverse e ogni volta che lo faceva sentiva una sferzata ai muscoli del petto. Quando raggiunse la vetta, trovò di fronte un panorama immenso e impossibile, proprio come l'età adulta. A 13 anni sentiva di tenere in mano la vita e aveva la certezza che nulla sarebbe mai cambiato, almeno non prima che l'estate finisse. Si fermò sulla soglia della cucina spiando Maria da dietro la porta. Sua madre era seduta al grande tavolo di marmo e stava bevendo una tazza di tè caldo. Doveva essersi appena alzata perché aveva ancora la camicia da notte e i capelli raccolti in una retina. «Ti stai nascondendo?» La voce la colse di sorpresa. Fece due passi in avanti, poi corse verso di lei. «Vacca boia, mamma! Hai gli occhi anche dietro le orecchie! Sempre molto educata, vero? Proprio una brava signorina! Come stai?» «Bene, abbastanza, direi. Hai fame?» «Sì, ci sono i ravioli alla crema, appena arrivati, sulla madia». Raggiunse il mobile e ne approfittò per guardare fuori dalla finestra che dava sul retro. C'era un gran movimento nel parco. Edoardo stava seguendo il lavoro di una squadra di 3 giardinieri che portavano il bosso. Aveva in viso un'espressione seria e lei pensò che era proprio un maggiordomo eccezionale. Prese i ravioli, poi andò alla ghiacciaia per il latte. «Sei scalza», osservò Maria. Senza rispondere, si sedette proprio di fronte alla madre e versò il latte nella tazza. «Oggi vado giù al canale», disse. «Davvero? Hai molti compiti per le vacanze? Una valanga, come sempre. E li hai già iniziati? Mi sto prendendo una piccola pausa. Senti, ma non andrai sola, spero, perché Elsa va in centro con vostro padre. Lo so, me l'ha detto ieri sera. Io vado con Albertina. Farete il bagno? Dipende. Da cosa? Se ne abbiamo voglia. Forse ancora un po' troppo freddo», commentò Maria guardando il cielo oltre la finestra. «No che non è freddo. Comunque state attenti, non mi piace che andiate laggiù al sole. Ci siamo già andate 100 volte, ma tu da giovane non hai mai fatto il bagno nel canale? Da noi c'era il Piave. E sì, certo, ho fatto il bagno nel fiume qualche volta. Ecco, è la stessa cosa. Invece tu cosa fai oggi? Ancora non lo so. Tra poco arriva il maniscalco. Penso che starò con lui. Voglio controllare che faccia un bel lavoro. Poi, guardandola negli occhi, aggiunse: vorrei anche capire cosa hanno gli animali questa mattina. Ho sentito Anacleto parecchio nervoso. Tu ne sai qualcosa? Lei prese un po' di biscotti e li affogò nel latte, spingendoli a fondo con il cucchiaio fin quando non si sciolsero, formando una poltiglia molto densa. Poi disse: oggi Anacleto non l'ho nemmeno visto. Oddio, commentò Maria con una mano sugli occhi. È orribile. La mia colazione preferita, rispose. Piantò il cucchiaio al centro della tazza e lo guardò restare dritto come un lampione. Cavolo, se dici così è perché non hai mai provato. Le due si guardarono divertite. Elena sollevò la posata e con un gesto plateale se lo infilò in bocca, provocando un'altra smorfia sul viso della madre. Poco dopo entrarono in cucina Elsa e Umberto. «Che schifo!» sentenziò Elsa fermandosi sulla soglia. «Io a quel tavolo non mi siedo!» Senza rispondere, Elena raccolse un cucchiaio di quella poltiglia e lo fece cadere dall'altro dentro la tazza con un rumore sordo di sassi gettati nel fango. Tutti si girarono e lei li guardò con un sorriso irriverente. «Quando imparerai le buone maniere, ragazzina?» chiese il padre sedendosi a tavola. Parlò senza guardarla, concentrato sui suoi pensieri. «Chi lo sa?» rispose. Lui si girò lanciando un'occhiata severa oltre il tavolo, poi però sorrise sotto i baffi. «Questa mattina vieni con noi in centro? C'è una adunata in piazza Vittorio Emanuele. Una cosa piccola, vado con Elsa». Solo in quel momento si accorse che Umberto ed Elsa erano già vestiti per le grandi occasioni. Guardò il papillon e la giacca del padre, la sua camicia bianca, i capelli tirati indietro da uno strato lucente di brillantina, aveva una pancia rotonda come una mongolfiera e il gilet tirava sullo stomaco. Sul risvolto della giacca, proprio sotto l'asola, brillava la spilla del partito fascista. «Vado giù al canale con un'amica», disse. «Non mi va di venire in centro». «Elena, non andrai mica in giro con quella tua amica ebrea? Si chiama Albertina». Lo guardò bene in volto. Non sembrava arrabbiato. Era concentrato sulla colazione e distratto dalla scelta del cibo da mettersi nel piatto. Sentiva invece addosso gli sguardi della sorella e della madre, ma non ci fece caso. Decise di cambiare discorso. «Voglio che sia l'ultimo giorno di svago perché domani dovrò iniziare i compiti, altrimenti non sarò libera per le vacanze». «Mi sembra una buona idea», disse Umberto. «Vedi di non far stare in pensiero tua madre». La luce del sole la costrinse a socchiudere gli occhi. Appena raggiunse il prato, camminò sull'erba strisciando i sandali e lasciando che la rugiada le bagnasse i piedi. Poi corse tagliando in due il cortile, salutò Edoardo con un gesto della mano, girò l'angolo e si trovò sul retro della villa, proprio accanto al noce. L'aveva chiamato Svaldo. Aveva rami così grossi che arrivavano fino alla finestra della sua camera. Si appoggiò al tronco e lo abbracciò forte. Poi strofinò le mani sulla foglia. Sentì un odore dolce che aveva molto a che fare con l'estate. Più avanti c'erano delle stalle e poi gli orti, dove i braccianti erano già al lavoro. Passò oltre e quando arrivò alla fine della proprietà si fermò per guardare il canale navire. L'acqua scorreva poco oltre la collina e tracciava il confine est del podere. Di solito le Albertine passeggiavano sulla riva senza allontanarsi troppo. L'amica arrivava dalla città in bicicletta. Era un viaggio di qualche chilometro e per questo potevano trovarsi solo di sabato, oppure quando non c'era scuola. Camminò per alcuni minuti seguendo il flusso della corrente, ascoltando il vento sulle canne e il rumore dell'acqua che scorreva lenta. C'era una quantità di insetti sulla superficie, ma i pesci nuotavano pigri senza farci caso. Seguì il sentiero fin quando il canale non girò verso destra e finalmente arrivò al piccolo molo di legno, dove al posto di Albertina trovò un ragazzo. Era seduto sul bordo e teneva una canna da pesca in mano facendo penzolare i piedi scalzi fino a sfiorare l'acqua. Indossava una camicia bianca con le maniche arrotolate e un paio di pantaloni neri che da lì sembravano un po' troppo grandi. Aveva una folta chioma di capelli castani, i cui ricci sembravano indomabili. Accanto a lui c'erano una borsa di tela, una scatola di latta e un paio di scarpe di due modelli diversi. Elena guardò quella scena senza muoversi, indecisa sul da farsi. C'era armonia nel modo in cui quel ragazzo se ne stava seduto a guardare il galleggiante. Sembrava parte del paesaggio, lì da sempre, come i salici sull'altra riva o i sassi che vedeva sul fondo del canale. Fu lui il primo a parlare. «Pensi di stare lì in eterno o hai intenzione di andartene?» «Oddio, non so», rispose. «Tu cosa dici?» «Dico che puoi fare quello che ti pare, basta che non fai troppo rumore. I pesci ti hanno sentito arrivare da mezz'ora». «Mezz'ora fa ero ancora a letto». «Sei una dormigliona?» domandò il ragazzo, ma lei non rispose. Si sporse un po' sulla destra per scorgere almeno un pezzetto di viso. Si accorse che stava sorridendo. Avrebbe voluto dargli un calcio sulla schiena così forte da spedirlo dritto nel canale. Decise per un approccio più diplomatico. «Comunque io sono Elena. È un vero piacere. Odino». «Odino? Sì, Odino. Bel nome. Cioè, strano. Mi chiamo così. È un dio. Come no? È il capo di tutti gli dèi, da qualche parte». «Sei ebreo?» «No, non sono ebreo. La mia amica Bertrina è ebrea». «Buon per lei», disse il ragazzo. «Senti, ma i pesci poi li mangi? Secondo te?» Finalmente il ragazzo si girò e la guardò in viso. Aveva gli occhi grigi e luminosi. Sembravano quelli di un bambino. Eppure lo sguardo era profondo, quasi adulto. «Hai mai pescato?» chiese. La domanda la colse di sorpresa. La scambiò per una proposta. «Posso sempre provarci», rispose. «Quindi no. Quindi mi piacerebbe». Il ragazzo la guardò perplesso. Fece scendere lo sguardo sul vestito, sulle ginocchia scoperte, sui piedi. Elena accompagnò il viso di Odino con un po' di apprensione e quando si ricordò di avere due grossi lividi sullo stinco destro, si vergognò. Lui però non glielo fece notare. «Dovresti venire qua con i sandali». Lei si guardò le scarpe e mosse le dita dei piedi. «Vengo sempre con i sandali». «E poi tu sei scalzo». «Le vedi queste? Sono scarpe». «Ah, e sono le tue? Pensavo che le avessi pescate». I due si guardarono ancora una volta e alla fine si scambiarono un sorriso. Quando il ragazzo si alzò, Elena si sorprese della sua altezza. Si considerava una ragazzina alta e alla sua età aveva già superato Elsa, raggiunto la madre e dentro un anno avrebbe superato anche il padre Umberto. Ma Odino era un tipo con un fisico atletico e anche senza scarpe la superava di una testa. Appena si fermò davanti a lei, il cuore batté fuori sincrono. «Allora, ecco qua la canna». «Cosa devo fare?» domandò. «Tienila così», le mostrò lui, facendole capire che doveva puntare la cima in alto. Lei assunse un'espressione al limite tra la concentrazione e l'imbarazzo. Voleva fare bella figura, ma si sentiva goffa e la situazione peggiorò quando Dino si fermò dietro di lei, abbracciandola e appoggiando le mani sulle sue. «Sei mancina», osservò. «Hanno provato a insegnarmi a usare la destra, ma niente. A me piacciono i mancini». «Davvero? Vieni sempre così presto?» chiese. «Sì», rispose lui, «prima dell'alba». «E perché?» «Perché poi arrivano le chiatte, laggiù, vengono dal Po, portano le merci in città, oppure via dalla città. Dal Po arrivano al mare, e dal mare vanno, un po' ovunque». «Non ci avevo mai pensato», disse. «Mio padre usa i camion, ma per lo più vende tutto in città». Sentì Odino stringere più forte la presa, incoraggiandola a tenere la canna ancora più in verticale. «Cosa vende?» chiese. «Dolci. Pasticcini, caramelle, cioccolato, ha una pasticceria in centro. Lui la chiama laboratorio, ma in realtà è una pasticceria. Era di mio nonno, e prima ancora di mio bisnonno, credo. E come si chiama? Caffè Beltrami». «Non ci sono mai stato». «Ti pareva». Poi, sempre tenendo gli occhi sul galleggiante, aggiunse: «Che scuola fai?» Lui aspettò qualche istante prima di rispondere, tanto che Elena pensò di aver sbagliato domanda. Poi però disse: «Non vado a scuola, lavoro». «Che tipo di lavoro?» «All'orfanotrofio. Riparo le cose, lavoro in cortile, sto dietro alle piante». «Ho capito, fai il manovale», lo punzecchiò lei. «È un lavoro di responsabilità». «Certo, non si sa mai che una ruota si sgonfi. Lui reagì stringendola con le braccia e lei lanciò un gridolino e proprio in quel momento un pesce abboccò. Il galleggiante scomparve sott'acqua e il grido di Elena si trasformò in uno strillo acuto. «Tranquilla», disse Odino, «adesso lo tiriamo su. Cosa devo fare?» Senza rispondere, il ragazzo strinse la mano sul suo polso, aiutandola a tenere ferma la canna. «Da come tira sembra grosso. Potrebbe essere una carpa, o peggio, un luccio. Dobbiamo farlo stancare. Un luccio? È un pesce molto grande, ma non preoccuparti, la bava è bella grossa, reggerà». Facendo leva con tutto il braccio, Odino mosse la canna per sentire la resistenza del pesce. C'erano momenti nei quali l'animale trascinava la punta fino a toccare il pelo dell'acqua, ma ogni tanto si riposava, permettendo ai due di rialzare la canna. «Quando tira, lascialo andare, altrimenti rischiamo di perderlo», disse il ragazzo. «Va bene. Se invece si ferma, alza la canna». Odino staccò delicatamente la mano destra che Elena teneva stretta sopra la sinistra e l'abbassò sul manico di sughero. «Così hai una presa migliore», commentò. Il pesce tirò ancora un po' verso destra, risalendo la corrente. Poi si girò e affondò tanto da costringergli a immergere la canna per un quarto. Infine risalì in superficie, saltò fuori dall'acqua per almeno un metro e quando tornò sotto sollevò un'onda che arrivò fino a loro. Era un luccio, un pesce enorme. Elena urlò divertita. «Porca vacca!» esclamò Odino. «Sei una gran pescatrice!» «Ah, l'hai detto!» rispose lei euforica. «Sono una grandissima pescatrice!» Impiegarono molto tempo prima di far uscire il pesce dall'acqua e una volta trascinato sul molo occupava tutto lo spazio libero. Elena si avvicinò per vederlo da vicino, mentre Odino lo teneva fermo. Aveva il manto grigio argento con striature gialle e verdi sui fianchi. La testa era affusolata e le branchie si muovevano ritmicamente cercando di strappare ossigeno dall'aria. Fu in quel momento che ebbe un sussulto. Fece una capriola. Sfuggì dalle mani del ragazzo e andò a sbattere contro le gambe di Elena. Lei si spaventò e arretrò con un salto, ma un sandalo si incastrò in una fessura facendola cadere e obbligandola a lasciare la presa sulla canna. Il luccio iniziò a portarsi verso l'acqua e quando se ne accorse Odino raggiunse la riva e appoggiò un ginocchio sul corpo scivoloso mentre con la mano sinistra teneva la bava. Trovò subito l'amo conficcato nella carne molto in profondità e con un gesto preciso lo staccò, poi prese il coltello che aveva in cintura, lo conficcò nella grossa testa del pesce staccandola di netto dal resto del corpo. Elena aveva assistito a quella scena seduta per terra. Quando Odino si girò con occhi interrogativi, rispose con un cenno di assenso. Lo guardò immergere entrambe le braccia nell'acqua e asciugarle con cura usando uno straccio rosso, poi tornare da lei e allungarle le mani per aiutarla a rimettersi in piedi. Solo in quel momento si rese conto che aveva un forte dolore al piede destro. Quando appoggiò il peso sulla gamba, gemette. «Ti sei fatta male?» chiese Odino. «Non credo», rispose lei rimettendosi seduta. «Non lo so». «Forse sì. Fammi vedere», disse il ragazzo chinandosi. Le prese la caviglia destra tra le mani e la sollevò piano. Un grosso pezzo di legno si era conficcato nella pianta del piede e il sandalo si era slacciato. «Una scheggia», sentenziò, «grande come il dente di un leone». «Mi fa male, vacca boia», si lamentò lei. «Ma quanto è grosso il dente di un leone, eh?» Odino non rispose. Invece fece una cosa sorprendente. Una cosa che lei non comprese mai fino in fondo. Le sollevò la gamba, tolse il sandalo, passò un dito sulla pianta del piede e quando trovò il punto nel quale la scheggia usciva dalla pelle, avvicinò la bocca e con i denti estrasse il pezzetto di legno. Uno strappo leggero che lei guardò restando ferma lì, in bilico tra la voglia matta di tirargli un calcio oppure abbracciarlo forte. Poi il ragazzo le fece l'occhiolino. Si alzò e con un gesto deciso la sollevò fino a rimetterla in piedi, proprio di fronte a lui. Elena spostò il peso sulla gamba destra e quando si accorse di non provare dolore, la guardò e sorrise. «Così dovresti essere a posto», disse lui. «Come ti senti?» E lei, confusa, non rispose. maratona di lettura della carezza e la mitraglia. La prossima lettura è affidata a Yvonne Capace per Sblocco 5, che è una compagnia teatrale di Bologna. 17 aprile 1945, martedì, ore 6:25, anima. Il massiccio del corno alle scale si illuminò all'improvviso. Fu come l'alzarsi di un sipario. Vampate rosse, arancioni e gialle guadagnarono campo sulla valle, mentre dalle nevi sulla montagna, ancora aggrappate alle ripide pareti che cadevano dai crinali, scendevano i riflessi incandescenti del sole che stava sorgendo. Il bosco si incendiò. Anche l'aria era cambiata. Un vento fresco che portava ovunque l'odore della foresta, della rugiada, della vita, pronta a ripartire. Tutto sembrava connesso. L'impatto di quella visione fu forte e attraversò il suo corpo con un brivido che subito divenne euforia allo stato puro. Prese dallo zaino qualcosa da mangiare e si concesse una minima colazione, giusto per festeggiare il momento. Portò alla bocca un pezzetto di formaggio e lo fece sciogliere contro il palato, senza masticare, poi beve un sorso d'acqua e rimise tutto nella sacca. Il casolare era molto vicino, tanto da far paura. Al buio sembrava appartenere a un altro mondo, ma adesso quei 300 metri erano finiti in niente. Doveva fare molta attenzione, perché ogni movimento rappresentava un rischio e in quelle condizioni non poteva concedersi nessun errore. C'era ancora la sentinella sul granaio. Era un ragazzo giovane che portava l'elmetto d'ordinanza e un cappotto scuro con il colletto alzato e il collo incassato tra le spalle. Cercò di capire se ci fossero stati cambiamenti rispetto ai sopralluoghi fatti con i suoi compagni nei mesi precedenti. Erano passate almeno 6 settimane da quando aveva risalito la montagna l'ultima volta e voleva essere sicura che nulla potesse mettere a rischio la missione. La grande casa colonica giaceva immobile al centro del quadro. Con il suo colore ocra e gli scuri chiusi, sembrava un pezzo di roccia precipitata giù dal corno, fatta di arenaria e ferro, immobile da secoli. 4 piani, 5 finestre per piano. Dal tetto partiva una selva di camini, ne contò 11, ma solo da uno saliva un filo di fumo. Dalla sua postazione non poteva vedere il fronte della casa, così come rimaneva oscura a metà dell'aia, però vedeva il pozzo e a destra la stalla con sopra il granaio. In mezzo ai 2 edifici, dall'altra parte della piazzetta e verso il bosco, c'erano le rimesse dove erano custoditi un trattore, un aratro, un carretto e attrezzi vari per il lavoro nei campi. I partigiani si erano accorti che all'interno dei garage si svolgevano attività sospette, anche se non erano riusciti a capire bene cosa facessero i tedeschi lì dentro. Nel complesso il luogo era terribile e bellissimo e Anima ebbe l'impressione che la guerra non fosse mai arrivata fin lì. Cercò un segno della tragedia, uno solo, ma non lo trovò. Guardò la rimessa. Cercò di capire se tra i vari attrezzi e macchinari fosse celata artiglieria pesante, ma non vide nulla. Se non fosse stato per il soldato di vedetta, nessuno avrebbe mai potuto dire che in quel luogo si nascondessero dei tedeschi. Appoggiò la testa al tronco e guardò il cielo. Vide i rondoni compiere ampie curve, precipitare verso terra e risalire in verticale con scarti ad angolo retto. Aveva sentito dire che erano gli uccelli dal volo più veloce in assoluto e guardandoli si convinse che fosse proprio così. Le piaceva stare lì, immobile, contro la parete sud di quella montagna. Le piaceva credere che avrebbe potuto portare a termine la missione da sola. Doveva solo avere pazienza e non farsi vedere dai nazisti. Chiuse gli occhi e si immaginò di volare. Maratona di lettura, la carezza e la mitraglia. La prossima lettura è affidata a Joy Kicks. Si avvicinò alla finestra perché era pomeriggio e la luce entrava pigra. Tolse la calza di lana e si guardò attentamente la pianta del piede destro, fin quando non trovò una minuscola cicatrice. Sua madre le diceva sempre di farsi un nodo al fazzoletto per ricordarsi le cose. Ecco, il ricordo del giorno della pesca si era annodato proprio lì, sulla pelle del piede. Coprì e scoprì la cicatrice diverse volte, sentendone lo spessore con il pollice. Era più un ricamo, un nodo fatto con l'uncinetto. Sorrise e restò ferma così, con il piede in mano, a guardare i campi innevati confondersi con il cielo bianco. Sembrava che non ci fosse nessuno là fuori, nemmeno un paesaggio. Tutto era sospeso in una dimensione eterna. «Ci sei ancora?» domandò. Restò in attesa, ma ci fu solo silenzio. Sul vetro, un alone opaco spariva con lentezza. Vide i fari dell'auto proiettare luce contro il noce e pensò che doveva essere l'ora del tè. Infilò le scarpe, uscì dalla camera e trotterellò lungo il corridoio. Quando arrivò davanti alla porta del bagno, bussò e restò in attesa. Non sentendo rispondere, le venne voglia di aprire la porta, ma poi ci ripensò. «Mamma!» chiamò. Maria socchiuse la porta giusto quel tanto che bastava per mostrare gli occhi ed Elena notò per prima cosa le occhiaie. Ogni tanto aveva l'impressione che crescessero con il passare dei giorni, che diventassero più profonde e più scure, come se il tempo avesse deciso di scavare due laghi proprio sopra gli zigomi. Eppure le davano un tono severo forse, ma rassicurante. «È arrivata!» disse. «Va bene», rispose Maria. «Scendi di sotto, io arrivo tra un attimo». Trovò Albertina nel salone. Se ne stava immobile, accanto a Edoardo, in silenzio. Avevano entrambi lo sguardo fisso davanti a loro, ma non davano l'impressione di vedere niente in particolare. Il suo arrivo sciolse i nodi invisibili che qualcuno aveva legato nell'aria. «Albertina! Elena! Che fai lì impalata? Togliti il cappotto!» «Ti stavo aspettando», disse l'amica. Poi si rivolse al maggiordomo. «Vi ringrazio molto, signor Edoardo». «Arrivederci, signora Albertina», rispose lui, accennando un inchino. «Vieni», disse Elena prendendola per un braccio e trascinandola via. La cucina era molto fredda nei mesi invernali ed Elena aveva l'impressione che fosse assolutamente troppo grande. Accese i fornelli, riempì una pentola d'acqua e la mise sul fuoco. Dalla madia prese le foglie e le ripose nel filtro della teiera. Usò la teiera più grande perché voleva essere certa che il tè bastasse per tutti. Rovesciò qualche biscotto in un piatto, cercando di sistemarli in modo che ce ne stessero molti. Dopo averne messo uno in bocca, richiuse la biscottiera e la ripose al suo posto. Poi tirò fuori dalla vetrinetta quattro tazze dello stesso servizio e le portò sul tavolo. Albertina la guardava, dando le spalle al muro. «Vieni ad aiutarmi, Tina», disse Elena. «Vuoi toglierti il cappotto o devo farlo io?» Senza rispondere, Tina sfilò l'abito e lo appoggiò su una sedia. Poi sistemò meglio le tazze e i biscotti che Elena aveva sparso, senza un ordine preciso. Si muoveva con cautela, come se avesse paura di rompere qualcosa. Dall'altra parte del grande tavolo, Elena si era avvicinata alla finestra che dava sulla parte ovest della casa per guardare i campi sparire nel buio. «Devo dirti una cosa», disse senza smettere di guardare il paesaggio. Però devi promettermi di non dirlo a nessuno. Va bene, rispose Albertina. No, va bene, devi dire promesso. Promesso? Se lo fai ti uccido. Non lo farò, me ne starò zitta come un quadro. Elena aspettò ancora qualche istante, poi disse: c'è un ragazzo che mi piace. Albertina sgranò gli occhi e si avvicinò alla finestra. Era una notizia sensazionale. Chi? Domandò. No, aspetta, lo so. Righini, di Quarta. Ma che, non lo conosci? Hai presente l'estate scorsa quando ci siamo viste sul canale? Mi ero ferita un piede. Sì, l'ho conosciuto lì. Ma chi? Come chi? Il ragazzo che mi piace. Si chiama Odino. Mai sentito uno con quel nome. È strano, lo so. Quel giorno, prima di incontrarti, sono arrivata fino al molo e lui era lì, che pescava. Ci siamo messi a parlare. Io mi sono ferita un piede con una scheggia e lui me l'ha tolta. Ti ha tolto la scheggia da un piede? Sì, con la bocca. Albertina abbozzò un'espressione schifata che cercò di soffocare per non offendere l'amica. Con la bocca? Esatto, una cosa da matti, Albertina, una cosa da matti. Ma chi è questo? È uno che sa il fatto suo. E perché non me l'hai detto prima? Non so, rispose, non mi è venuto in mente. E da giugno a oggi? Quante volte l'hai visto? Elena guardò l'amica e si mise a ridere. Mai! Mai? Ci credi? Mai! Però ci siamo scritti. Cioè, io gli ho scritto e lui mi ha risposto. Anche se non ha scritto. Ma ti ha dato l'indirizzo? Lì sul molo? Ma che, figurati! Mi ha detto che lavorava all'orfanotrofio San Lorenzo. Allora, io ho chiesto informazioni alla moglie di un dipendente di papà, che fa l'infermiera. È un trovatello, Tina. Un trovatello! C'era una strana euforia nella voce di Elena. Albertina non la capiva, ma era curiosa di vedere fino a che punto l'amica si fosse spinta in quella storia assurda. «È sempre stato in orfanotrofio», continuò Elena. «Nessuno è mai andato a prenderselo, e così adesso vive lì. Lavora per le suore. Quanti anni ha? Quasi 17. Albertina raggiunse Elena davanti alla finestra. Aveva iniziato a nevicare e i fiocchi scendevano decisi. È una cosa da non crederci. L'hai detto, sospirò Elena. Insomma, ho chiesto di lui e poi ho deciso di scrivergli. E ho portato la lettera in orfanotrofio. L'ho lasciata a una suora. Lui mi ha risposto facendo arrivare la sua risposta in laboratorio. Le tengo sempre con me. Prese una busta dalla tasca, poi l'aprì e mostrò all'amica le due buste più piccole che conteneva. Albertina guardò incerta, poi disse: fammele leggere. Aspetta, rispose Elena, aprendo una delle due lettere. Le mani le tremavano appena. Ti leggo prima la mia. Qui di pesci non se ne vedono, ma le foglie dei tigli sono già tutte gialle. Mi ricorderò di come pescare un luccio? Elena, scheggia dente di leone Beltrami. Albertina rimase di sasso. Gli hai scritto così? Sì, rileggi. Elena rilesse la lettera, questa volta più lentamente. Ma che vuol dire? Lascia stare, Albertina, non sai la storia. Sospirò con un po' di sofferenza, poi cercò di spiegare. Lui mi ha insegnato a pescare e io ho preso un luccio, un pesce enorme, grande così, anzi, così. Oddio! Era un pesce così grande che quando l'abbiamo tirato su mi ha fatto cadere e una scheggia mi si è infilata sul piede. Guarda! Così dicendo si tolse di nuovo la calza e schiaffò il piede in faccia all'amica. Tina si fece un po' indietro. Poi però guardò attentamente. «Non vedo niente», disse. «Come no? Guarda bene, lì!» «Ah sì», disse Albertina, «una cicatrice!» «Esatto, quella! Quando Dino ha visto la scheggia, ha detto che era grande come il dente di un leone!» «Cavolo!» «E lui cosa ha scritto?» «Cosa ha scritto?» «Ha scritto questo!» Aprì delicatamente la seconda lettera. Era un po' rigonfia da un lato e stropicciata dall'altro. Guardò all'interno, ancora indecisa, se mostrarne il contenuto. Squadrò Albertina con aria severa, poi infilò l'indice e il pollice della mano sinistra nella busta e mostrò all'amica un piccolo oggetto. Era una scheggia di legno e, a guardarla bene, Sembrava proprio grande come il dente di un leone. «Accidenti!» disse Albertina. «Accidentissimo!» «Mi piace, Tina, mi piace proprio. E quando lo rivedrai?» «Non so», rispose Elena mentre rimetteva le lettere in tasca. «Prima o poi, direi». Arrivarono a sera nella grande sala del camino, bevendo tè, mangiando biscotti e ascoltando le storie dei miti greci o delle grandi opere liriche raccontate da Maria. Elena pensava che la madre avesse un modo meraviglioso di raccontare, paziente e al tempo stesso dettagliato, e ci fu un lungo periodo durante la sua infanzia nel quale si era convinta che tutto ciò che ascoltava in quei racconti fosse realmente accaduto. Nel corso del pomeriggio Maria cercò anche di informarsi da Albertina su come andavano le cose in città. Non lasciava quasi mai la villa, un po' per i tanti impegni che aveva nella gestione del potere, un po' per la stanchezza. Naturalmente conosceva bene la situazione della comunità ebraica, ma le sue informazioni venivano da Umberto e lei sapeva che non erano oggettive. «Aiuti i tuoi genitori in negozio dopo la scuola?» chiese ad Albertina tra una storia e l'altra. «Dopo la scuola e dopo i compiti», rispose Tina. «Non hanno sempre bisogno di me. Una volta c'era più lavoro». «Quelli che hanno chiuso sono tutti ebrei?» chiese Elena. «Che genere di domanda è questa?» domandò Maria. «Una domanda». «No», intervenne Albertina, «non tutti ebrei. Ci sono ebrei che hanno chiuso e altri no. Noi siamo aperti. Un gioielliere ha sempre i suoi clienti. Però il sarto ha chiuso perché non aveva abbastanza commesse e non era ebreo». «Mamma, se scoppia la guerra, cosa succede? Chiudono tutti i negozi?» domandò Elena. «Queste sono cose alle quali non dovete pensare», rispose Maria. «La guerra non scoppierà». «Sì, ma se scoppia, forse le scuole chiuderanno». «Sì, penso di sì», sottolineò Albertina. Maria diede una serie di colpi di tosse, bevve un sorso di tè, poi disse: «Non scoppierà nessuna guerra. Ma se anche fosse, voi continuereste ad andare a scuola come state facendo adesso, niente meno». Ci fu qualche momento di silenzio. Le ragazzine bevvero un po' del loro tè e mangiarono alcuni biscotti. Al di là di qualche racconto dei loro genitori o dei loro nonni, non avevano idea di cosa significasse essere in guerra. «Comunque noi stiamo bene», concluse Albertina. «Sappiamo che in altri paesi la situazione è ben peggiore». «Tesoro, lo so», disse Maria cercando di rincuorarla. Poi si rivolse a entrambe. «Voi continuate a fare il vostro dovere e non pensate al peggio. Avete una vita davanti». Quella notte Elena sognò Odino. Non era più il ragazzo che aveva conosciuto, ma un soldato in uniforme, con un fucile in mano e un fazzoletto di cotone attorno al collo. Era in un paesaggio a due dimensioni, senza distanze. Il cielo era rosso scuro e la terra era una distesa di sabbia blu. Un vento forte sollevava un denso strato di polvere che finiva per oscurare il sole e rendere tutto opaco. I pochi alberi che poteva vedere erano di una specie che non conosceva. Notò molti cespugli invece e vegetazione bassa e secca. Il ragazzo aveva le labbra screpolate dal caldo e gli occhi ridotti a fessure, mentre una sottile ragnatela di rughe partiva dalle palpebre e si stendeva fino alle tempie per trasformarsi in solchi profondi e diventare branchie dietro le orecchie. Si muovevano a tempo come quelle del luccio pescato qualche mese prima. Stava camminando proprio un metro da lei, anche se non poteva vederla. Accanto a lui c'erano altri militari. All'inizio non ci fece caso, ma guardando bene si accorse che erano tutte sue repliche. Alcuni guardavano il cielo, altri trascinavano i piedi sollevando polvere e sassi, altri ancora camminavano con il fucile puntato davanti a sé, come se stessero per sparare a un nemico invisibile. Davano l'impressione di procedere senza meta, senza nessuno che li guidasse, in cerca di ossigeno. Poco dopo udì degli spari. Tutti iniziarono a correre, ma il paesaggio non dava loro molte possibilità di protezione. I colpi arrivavano da ovunque, senza una direzione precisa. Da qualche parte Odino iniziò a rispondere al fuoco, sparando alla cieca. Altre volte il ragazzo restava immobile, cercando di capire la direzione dei proiettili per individuarne il punto di partenza. Fu in quel momento che uno di loro la guardò. Si girò verso di lei e sotto lo spesso strato di terra e sporcizia Elena vide i suoi occhi grigi. Erano sereni. Le trasmisero un senso di tranquillità che stonava con il resto del sogno. Poi però tutti si girarono verso di lei, tutti con lo stesso sguardo, tutti con gli stessi occhi, tutti con la stessa espressione di attesa, e smisero di respirare. Maratona di lettura della carezza e la mitraglia. Legge Elisa Petrolini per Sblocco 5, una compagnia teatrale di Bologna. 17 aprile 1945, martedì, ore 8 e 11. Anima. Quando riaprì gli occhi, un soldato stava camminando verso la rimessa. Si era appisolata senza volerlo, non tanto per stanchezza, quanto forse per un eccesso di fiducia. Ma risvegliarsi in quel contesto fu un tuffo nell'acqua gelata. Il militare procedeva con passo svelto, come se stesse marciando. Non aveva armi, sembrava così sicuro di sé, che dava l'impressione di poter combattere la guerra con le sole mani. Più volte aveva pensato che la pantomima della razza promossa da Hitler e Mussolini avesse qualcosa di vero. Nel corso di quegli anni era arrivata a stretto contatto con i soldati tedeschi, sorprendendosi spesso della loro imponente corporatura, ma quello era una statua. Indossava un uniforme da graduato, stivali lucenti, un impermeabile che arrivava fino a terra e si muoveva con un portamento elegante, anche la mattina così presto. Nel guardarlo provò un po' di timore, soggezione forse, ma fu solo un attimo. In fondo, ogni invincibile crucco moriva, come tutti gli altri esseri umani. Il soldato entrò nella rimessa e poco dopo ne uscì spingendo a mano una motocicletta. Era un sidecar. Ne aveva visti altri dall'estate del 1944. Era buffa, anche se portava una mitragliatrice. Proprio sul sidecar. Doveva essere una Zundapp KS-750, molto simile a quella che la Brigata Stella Rossa aveva requisito a una pattuglia tedesca dopo un'imboscata qualche mese prima. Il soldato stava cercando di metterla in moto, ma non ci riusciva. Più provava a spingere sulla leva di accensione, e più il motore borbottava a vuoto. Dopo qualche tentativo, l'immensa mole di quell'uomo si spostò indietro e fece partire una pedata che colpì il lato sinistro della motocicletta, alzandola da terra di qualche centimetro. In quel momento sentiva freddo, o forse era solo la stanchezza. La scelta di appostarsi sulla parete nord era stata l'unica possibile, perché da lì aveva la visuale migliore. E poi era il lato meno illuminato. Ma aprile era ancora un mese freddo, soprattutto a quelle altitudini, e lei sapeva di non potersi muovere, a meno che non ne fosse costretta. Slacciò le manopole di lana e si guardò le dita. Aveva scelto quel tipo di guanto perché era perfetto per riscaldare e per sparare. All'interno delle manopole poteva muovere le dita facilmente e questo aiutava a mantenerle calde. Inoltre, la parte che le copriva si apriva, dandole la possibilità di impugnare il fucile e inserire l'indice nel grilletto. Molto lentamente, procedendo per movimenti così cauti che quasi non si scorgevano, Anima infilò le mani tra le cosce e strinse forte, senza staccare mai gli occhi dal casolare. Il tedesco era ancora accanto al sidecar, con le gambe divaricate e le mani sui fianchi. Poco dopo arrivò un gruppetto di persone, tra cui riconobbe un giovanissimo soldato che non poteva avere più di 16 anni. Nei mesi precedenti, durante i sopralluoghi, non l'aveva mai visto parlare né alzare lo sguardo verso uno dei suoi camerati o un suo superiore. Si guardava sempre i piedi, come se stesse cercando di capire se avesse gli scarponi allacciati bene. Secondo lei, il ragazzo aveva paura. Si era fatta questa idea. Forse era l'età. A 16 anni i ragazzi dovrebbero stare a scuola, pensò. Poi si rese conto che aveva solo qualche anno in meno di lei e il pensiero non le fece piacere. Insieme ai due tedeschi c'era un terzo uomo. Camminava un po' ingobbito, con il cappello tra le mani e una salopetta da lavoro molto sporca e rotta in diversi punti. Era sicuramente un civile. Il graduato urlò qualcosa all'uomo facendogli vedere il sidecar. Provò di nuovo a metterlo in moto, ma senza risultato. Il civile si accovacciò al lato del mezzo per controllare meglio il motore. Poi si sedette sulla sella e provò con la leva di accensione. Ancora niente. Lo vide scendere e, mantenendo il suo atteggiamento compassato, spingere il sidecar nella rimessa, richiudendosi alle spalle i portoni di metallo. Dunque è un meccanico e lavora per i tedeschi, pensò Anima. Peggio per lui. Se c'era una cosa che odiava, oltre ai crucchi, erano le camicie nere e i civili complici, ma soprattutto odiava i civili spioni e favoreggiatori. Cosa speravano di ottenere? Qualche sacco di farina in più? Non poteva sopportarli, erano i peggiori. Guardò i tedeschi entrare nel casolare e lasciare l'aria ancora una volta deserta. Era di nuovo sola. Il sole aveva già superato la linea dell'orizzonte e illuminava i boschi con una luce che stava diventando calda proprio in quel momento. Le montagne davanti a lei disegnavano una corona. Era come se avessero voluto circondare quel preciso punto del mondo. E ogni cima, ogni vallata, ogni singola roccia puntava dritta sul casolare. E la mitraglia. Legge Marco Filopat. Maggio 1938, venerdì. Elena. Tina, domani lo rivedo. Oddio! Odino! Elena e Albertina fecero una risatina nascondendo il viso dietro le meringhe che stavano mangiando. La montagnetta di panna montata che le ricopriva forniva loro un ottimo riparo. Il venerdì pomeriggio, dopo la scuola, avevano l'abitudine di trovarsi per merenda nel caffè di Umberto. Era un bel giorno di maggio, caldo e ventoso, e le ragazzine percepivano già l'arrivo dell'estate. «Come l'hai contattato?» chiese Albertina. «Gli ho scritto una lettera. Un'altra firmata Elena Scheggia di Dente di Leone. Beltrami?» «No, solo Dente di Leone. E lui?» «Ha portato qui un galleggiante, guarda!» Elena tirò fuori dalla cartella un piccolo pezzo di sughero di forma ovale. Sembrava molto vecchio, ma aveva ancora i segni evidenti del coltello che l'aveva modellato. Lo posò sul tavolo accanto al piatto dei pasticcini. «Quello è matto forte, eh?» «La settimana scorsa gli ho scritto che potevamo vederci domani», disse Elena senza basare al commento dell'amica. «Lui mi ha risposto così. Non mi sembra un messaggio, come dire, elegante. Devo ancora capire perché non scrive. Farebbe prima. Non lo so, ma è divertente. È uno pieno di idee. E dove vi trovate? Giù al molo, credo. È l'unico posto che conosco dove si può usare un galleggiante. Scambiarono l'ennesimo sguardo complice, poi passarono al tè. S'erano sedute nei tavolini sotto il portico, proprio su via dell'Indipendenza. La palazzina Liberty si stagliava sulla linea dei portici e il suo profilo sinuoso si vedeva fin dalla grande piazza. La città era rigogliosa e vivace, ti faceva sentire al centro del mondo. Da dove erano sedute potevano vedere il passaggio delle carrozze, delle macchine nuove, ma anche commercianti ambulanti e venditori di robe vecchie che urlavano al vento la loro merce. A Bologna, Elena, piaceva stare in quel posto, perché ti dava l'impressione di poterci trovare benestanti e poveracci, girare a braccetto con un sorriso sincero stampato in volto. Ognuno faceva la sua corsa e andava avanti senza troppi patemi. Negozi di moda aprivano le loro vetrine accanto ai salumieri, mentre nei sontuosi ingressi delle banche entravano imprenditori e meccanici, ereditieri e vecchiette spaesate. E da qualche anno tutti si ritrovavano al Caffè Beltrani, che suo padre aveva rilanciato trasformando il laboratorio di famiglia in un vero e proprio ritrovo alla moda. Quando vide avvicinarsi Elena, si infilò il galleggiante in tasca e fece un cenno ad Albertina. Stava arrivando suo padre Umberto. «Non sentite freddo qui fuori?» domandò lui. Prima di rispondere, ricomposero il loro atteggiamento in una versione più aggraziata e consona alla situazione e Elena disse solo «No, papà». «Buongiorno», disse Albertina. «Tina mi stava raccontando di quello che farà quest'estate». Nel dirlo Elena guardò l'amica strizzando l'occhio. «La scuola non è ancora finita», disse Umberto. «Lo so, ma è meglio essere pronte», gli rispose Elena. L'uomo prese una sedia e si sistemò tra le due ragazzine. «Cosa pensi di fare?» chiese rivolto ad Albertina. «Di solito andiamo al mare, abbiamo parenti a Rimini». «Noi non siamo mai stati al mare, papà. È vero, siamo più per la montagna noi. Come vanno le cose qui, signor Umberto?» Lui guardò Albertina con aria impassibile. «Molto bene», rispose, «molto bene. Vedi quanta gente? Poi ci sono tutti quelli che non vedi. Cioè, i dolci li vendiamo al dettaglio, ma anche ad altri caffè della città e anche fuori città. Le cose vanno bene». Poi, con un'espressione di pieno orgoglio, aggiunse, «La cioccolata Beltrani sta diventando un marchio conosciuto in tutto il nord Italia». Elena guardò il suo grosso collo e la sua pancia rotonda, donargli un'aria di benessere che, doveva mettere, riusciva a trasmettere a chi lo circondava. Però non le piaceva quando parlava dei suoi successi, aveva sempre paura che le facesse fare brutte figure. Di recente aveva anche iniziato a discutere di politica con Maria, la sera, quando le figlie erano già a letto. Li aveva sentiti alzare la voce, parlando di Mussolini e del fascismo. Umberto aveva deciso di iscriversi al partito fascista, mentre Maria gli chiedeva di stare fuori da certi giri, come li chiamava. Secondo la madre, doveva farsi bastare andare a radumini e alle ricorrenze. Ma già all'inizio del mese Umberto aveva ottenuto di partecipare alla 12ª fiera del Littoriale, portando il nome Beltrani sulla bocca di tutti. E questo, diceva Maria durante quella discussione, era solo merito del partito. Qualche settimana prima aveva insistito per portare tutta la famiglia alla stazione centrale per assistere al passaggio del treno di Hitler. C'era così tanta gente accalcata ovunque che non avevano mai visto né il treno né tantomeno il Führer. Per quanto ne sapevano loro, avrebbe potuto essere in Baviera a passeggiare sui monti. Elena aveva vissuto quella giornata come una faticosa perdita di tempo. Vedeva la madre arrancare tra la gente e respirare a fatica e pensò più volte che avrebbe preferito essere a scuola e non lì, tra quella gente. Solo Elsa sembrava a suo agio, ma sua sorella era un caso a parte. Comunque, da quel giorno, Umberto aveva iniziato a lucidare la spilla del partito fascista con più vigore. «Vi faccio vedere cosa succede nel laboratorio», disse Umberto. «Si può entrare in cucina vestite così?» chiese Albertina. «Non preoccuparti», rispose Umberto. «Seguitemi e non toccate niente». Il laboratorio era una grande stanza piena di scaffali, tavoli, forni e tante altre cose che nessuno delle due aveva mai visto. Elena si guardò attorno con stupore e si chiese come mai in quegli anni non aveva mai avuto la curiosità di entrare. Iniziarono a girare tra i banconi, dove i pasticceri lavoravano senza alzare mai la testa. Sacchi di farina e zucchero erano sparsi ovunque, insieme con quelli di cacao, mentre enormi refrigeratori ronzavano un po' ovunque. E poi c'era l'odore, glassa, zucchero, torte appena sfornate, marmellata. Era un luogo incredibile. «Nando!» urlò Umberto. Parlava a voce alta per sovrastare il rumore delle impastatrici. Dal fondo della stanza arrivò di corso un ometto magro e più basso di Elena che, accanto a Umberto, sembrava un bambino. «Signore?» disse. «Nando, lei è mia figlia. Ragazzine, lui è Ferdinando, il mio chef patissier». E l'uomo le salutò con un inchino, un'espressione in bilico tra la gentilezza e l'insofferenza. Elena ebbe l'impressione che stesse considerando quella pausa come un imprevisto non gradito. Non sembrava comunque il tipo in grado di contraddire il proprio capo. Nando le portò in giro per il locale, mostrando il lavoro delle persone che stavano preparando i dolci. Mentre Albertina camminava lungo, con le mani lungo i fianchi, Elena era costretta a tenerle in tasca per paura di non resistere alla tentazione di prendere qualche pasticcino. Non voleva far brutta figura davanti all'amica. Si fermarono in cucina almeno mezz'ora, parlando con i cuochi, ricevendo sorrisi e scambiandosi sguardi divertiti. Il tempo passò senza che se ne accorgessero, e quando accade ciò che accade, proprio lì, tra un krapfen e una crostatina, non erano preparate. Arrivò un ragazzo alto e magro, col cappellino bianco abbassato sulla fronte e uno strano sorriso stampato sul viso da furetto. Portava con sé due tortine alla mostarda appena sfornate. Porse la prima a Elena e poi, rivolgendosi ad Albertina, disse: «E questa è per te, piccola Giudea!» E invece di dargliela, la fece cadere per terra e se ne andò come se niente fosse. Il gesto rimase sospeso per un attimo, che a Elena sembrò non finire mai. Era come se l'aria, gli odori, quell'atmosfera giocosa avessero interrotto il loro flusso sbattendo contro un muro di cemento. Albertina si mosse per prima, si chinò, raccolse la tortina, ci soffiò sopra e le diede un morso. Buonissima! Poi si girò verso Umberto e ripeté, buonissima, davvero, Elena, cosa aspetti? Dovresti assaggiarla. Ma Elena non rispose. Guardava dritta la schiena del ragazzo provando una sensazione di odio misto a rabbia pura. Non sapeva bene come interpretare quel sentimento, ma sentiva un certo piacere nel provarlo. «Elena!» chiamò Albertina. Forse le persone che aveva attorno percepivano il suo stato d'animo molto meglio di quanto non lo percepisse lei. Non tolse gli occhi di dosso da quella persona per un solo secondo. Aveva offeso l'amica e adesso se ne stava lì a fare il suo lavoro come se niente fosse. E nessuno diceva niente. Questa era la cosa che l'aveva fatta arrabbiare di più. L'idea che quel gesto fosse una cosa normale e in qualche modo giustificabile, si guardò attorno cercando un viso complice, ma nemmeno suo padre si mosse. «Ragazze!» tagliò corto Umberto. «Andiamo fuori a mangiare i nostri dolci». Il gruppetto iniziò a muoversi, ma Elena non riuscì a seguirli. Dopo qualche passo si girò, prese la rincorsa e diede un calcio alla coscia del ragazzo. Lo prese all'improvviso e con una forza che non sapeva di avere. Nessuno si fece male, ma l'offesa fu così grande e inaspettata che il ragazzo non ebbe la forza o il coraggio di rialzarsi. Invece Elena era già lì, pronta a saltargli addosso, ma fu fermata da Umberto che la prese per i fianchi. «Elena, ma scherzi?» La strattonò per farla tornare in sé e lì davanti a tutti partì con un manrovescio che la colpì in pieno viso, facendole fare la giravolta. Poi il padre la prese per l'orecchio e la trascinò fuori dal locale. Elena non piangeva spesso, neanche quando era piccola. Ma quella sera non riuscì a trattenersi. Non era per la sberla e nemmeno per l'umiliazione, ma per Albertina, per come si stavano mettendo le cose. Non sapeva dare un nome a quella situazione. Le sembrava che fosse il mondo a girare nel verso sbagliato e si sentiva sola. Ripensava anche alla reazione che aveva avuto. Cosa le era saltato in mente? Colpire un estraneo a quel modo, lei che non aveva mai picchiato nessuno. temeva la violenza del sentimento che aveva provato. Odio corrosivo, null'altro da dire. Quel desiderio terribile di colpire per uccidere. Forse era stata solo una reazione di passaggio, o forse no. E poi c'era l'atteggiamento del padre che complicava tutto. Dopo averla riaccompagnata a casa, le aveva intimato di stare alla larga da Albertina una volta per tutte e di non uscire di casa per una settimana se non per andare a scuola. Era una cosa che proprio non poteva accettare. Non era mai stato semplice con lui e qualche schiaffo lei ed Elsa l'avevano già preso. Ma nella sberra ricevuta quel pomeriggio c'era una violenza che aveva fatto male più della forza usata per colpirla. Elena l'aveva capito e un eco dell'odio che aveva provato per il cuoco razzista adesso lo provava anche per suo padre. Aprile 2020, maratona di lettura con La carezza e la mitraglia. Legge Max Liazon, sempre su Elena. La mattina dopo, allacciò i bottoni del cardigan di lana fin sotto il mento, chiuse le scarpe con una legatura stretta e guardò la stanza con distacco. Il sole che stava sorgendo disegnava sui muri lunghe ombre scure e tutto le sembrava lontano, come se nulla le appartenesse più. Si avvicinò alla finestra e la ventata di aria fresca invase la stanza, lasciando entrare l'odore del noce Osvaldo che aveva davanti, mentre la nebbiolina finissima che si stava alzando dai campi impediva alla vista di andare oltre il giardino. Salì sul davanzale, allungò le braccia per afferrare un ramo e si buttò in avanti, restando lì appesa. Sentì le braccia stirarsi e la schiena tendersi. Si guardò attorno, poi lasciò la presa, atterrando sull'erba ai piedi del grande albero. Corse con la schiena ricurva in avanti, evitando il lato del podere dove si stava lavorando. Più si allontanava da casa e più si sentiva libera. L'elastico che la legava a quella vita si era teso al massimo e quando arrivò al molo si spezzò. «Non eri una dormigliona?» La voce giunse da qualche parte dietro di lei, all'improvviso. Non si girò subito. Assaporò quella febbrile sensazione di attesa che si prova l'attimo prima di fare un tuffo. Non quando c'è qualcosa di buono in giro. Fai ancora tutte quelle domande. Quali domande? Ecco, le fai ancora. E tu hai imparato a scrivere lettere? Ti ho scritto delle lettere bellissime. Non aveva tutti i torti. Si girò e lo vide. Erano passati 11 mesi, ma Odino era così come doveva essere, solo un po' più alto. Vestiva una camicia bianca e un paio di pantaloni di cotone pesante, arrotolati sopra le caviglie. Sembrava una statua, uno di quegli eroi greci di cui parlava Maria nei suoi racconti. E poi lo sguardo era lo stesso che aveva sognato qualche mese prima. Le dava la sensazione che potesse entrare nei suoi occhi per guardarle dentro a una profondità che nemmeno lei poteva raggiungere. Per sicurezza allungò il collo di lato e gli guardò dietro le orecchie. Niente branchie, per fortuna. «Guarda che oggi non sono in vena», disse. «Cosa ti succede? Hai fatto indigestione di cioccolata?» chiese Odino, come per sfidarla. «Una cosa del genere», rispose lei. Poi cambiò discorso. «Che cosa stavi facendo?» «Come va il piede?» domandò lui. Lei sorrise e disse: «In gran forma». «Stavo pescando», Odino parlò indicando la canna da pesca conficcata tra le assi del molo. Lei si girò un attimo, giusto il tempo di osservare gli attrezzi, compreso il barattolo di latta con dentro i lombrichi. Prese dalla tasca il galleggiante che gli aveva spedito e allungò il braccio verso di lui. Hai preso qualche luccio? Chiese. Aspettavo te. Davvero? Sì. Ti va di fare una scommessa? Una scommessa? Ripete lei. Sì, una scommessa. E che tipo di scommessa? Una scommessa che vincerò io, rispose lui. Allora dipende da cosa si vince. Si vince un bacio. Se vinco, ti do un bacio. Un bacio. Hai mai dato un bacio a un ragazzo? Elena restò in silenzio qualche secondo. Non aveva mai baciato nessuno, ma non era quello. Stava veramente chiedendole se avesse mai baciato qualcuno. E tu? Chiese. Certo, rispose lui senza indugio. Non ci credo. E perché no? Perché no? Beh, ho baciato due volte. Addirittura. Sì, due volte. Due ragazze diverse. E vuoi baciare anche me? Certo. Perché? Odino si avvicinò a Elena e tagliò corto. Insomma, vuoi fare questa scommessa o no? Aspetta, fammi capire. Se tu vinci, ci guadagni un bacio. E se la scommessa la vinco io? Chiese Elena. Se vinci tu, beh, non lo so, non ci ho pensato, rispose lui. Ovvio. Va bene, disse Odino, decidi. Se vinci tu, io cosa faccio? Elena ci pensò su un po'. Poi disse, se vinco io, tu mangi un lombrico. Puoi lavarlo nel canale se vuoi. Ma scherzi? Dopo aver visto la sua espressione, Elena iniziò a ridere di cuore. Guarda che si mangiano, sai, lo so per certo. Ma è roba da matti. Devi decidere, altrimenti ci mettiamo a pescare e non se ne fa niente. Lui la guardò con aria di sfida. Poi disse, vacca boia, e va bene, accetto. Però decido io cosa fare. E ti pareva, va bene. Elena prese il barattolo di latta con dentro i lombrichi e lo rovesciò sul fazzoletto che aveva in tasca, annodando i quattro angoli tra loro per impedire ai vermicelli di scappare. Poi raggiunse una roccia distante 10 metri, posizionò la lattina sulla cima e da lì si voltò per guardare il ragazzo. Gli occhi grigi di Odino splendevano nonostante la luce del sole. Per un attimo ebbe l'impressione che fossero diventati blu. Ecco, 3 tiri. Vince chi lo colpisce almeno una volta. Cioè io, disse lui. Lei lo guardò divertita. Era proprio strafottente. Non le aveva detto neanche ciao ed era già lì a sperare in un bacio. Si domandò se Odino avesse impiegato tutto l'anno per pensare a quella stupida scommessa. Questo lo vedremo, disse Elena. Odino prese la mira e tirò il primo sasso. La pietra sorvolò il barattolo di circa 2 metri, andò lunga di almeno 3 e cadde in maniera imbarazzante nel canale. «Bel colpo!» esclamò Elena. Lui la guardò severo. «Stavo solo prendendo le misure». Assestò un po' meglio i piedi e prese slancio per il secondo tiro. Elena interruppe il gesto a metà. «Sì, però vale!» «Cosa?» chiese lui. «Anche se stavi prendendo le misure, vale lo stesso?» «Certo che vale! Non distrarmi, altrimenti sbaglio!» Il sasso partì e questa volta colpì il masso sul quale il barattolo era appoggiato. La pietra rimbalzò e si perse nell'erba. «Già meglio!» valutò lui con un certo trionfalismo. «Già meglio per me, volevi dire. Non sfottere. Non sto sfottendo. Mi stai innervosendo, devo concentrarmi». «Va bene, concentrati, fai con calma». «Certo, mi concentro se tu stai zitta per un minuto». Elena rispose cucendosi le labbra con 2 dita. Odino prese la mira. Il pezzo di latta stava lì, a non più di 10 metri, ma sembrava sulla luna. Si rese conto che solo con un incredibile colpo di fortuna lo avrebbe preso. Iniziò il gesto del lancio, ma Elena lo interruppe ancora. «Questo è l'ultimo tiro», disse. «Stai attento». Lui cercò di non ascoltarla. Si fece coraggio e scagliò l'ultima pietra che aveva a disposizione. Un disastro. Il sasso sparì tra i cespugli di more molto oltre la roccia, lontanissimo dal barattolo. «Voilà!» disse Elena. «Vacca boia! Tocca a me!» «Lo so!» Elena raccolse tre sassi e li soppesò tra le mani. Ne appoggiò a terra due e tenne il terzo nella mano buona, la sinistra. Parlò guardando il bersaglio. «Odino, cosa vuoi?» «Devo dirti una cosa. Colpirò quel barattolo. Eh? Dico che mi sa che ho mira, molta mira. E come fai a saperlo?» «Lo so. Mi diverto a colpire bersagli con i sassi giù al podere. Lo faccio anche con pipistrelli. Mi aiuto con le noci.» «Non dire scemenze. Nessuno riesce a colpire un pipistrello mentre vola.» «Come no? Tiro la noce che è leggera e vola lentamente e il pipistrello inizia a seguirla. Così ho qualche secondo per lanciare il sasso e beccarlo.» «Non ci credo.» «Fai un po' come ti pare.» «Senti, Elena, tira.» «Va bene. Adesso spostati un po'.» Elena guardò il bussolotto. Si sentiva tranquilla, forse troppo. Infatti sbagliò il primo tiro. Non di molto, ma sbagliò. Sentì lo sguardo compiaciuto di Odino sul collo. Cercò di concentrarsi, di pensare solo alla lattina. Ma quando fu pronta per tirare, il ragazzo le lanciò un bacio con uno schiocco delle labbra e tirò corto. Si girò verso di lui e lo guardò severa. Odino invece sorrideva. Elena si grattò il palmo della mano sinistra. Poi raccolse l'ultima pietra. Non poteva sbagliare. Chiuse gli occhi, si concentrò e finalmente sentì l'energia giusta. Quel ragazzo le aveva scombinato qualcosa nella pancia, ma adesso era riuscita a trovare un po' di calma. Sorrise. Poi lanciò il sasso. Un tiro perfetto, dritto sul bersaglio. Odino indicò il barattolo con il braccio destro teso in avanti. Poi si girò verso Elena senza riuscire a dire niente. E restò così. «Ah, perfetto!» esclamò lei. Guardò verso Odino e iniziò a ridere a crepapelle. «Vacca boia! Vacca boia! Vacca boia!» esclamò lui ancora una volta. «Non posso proprio crederci!» «Caro mio!» disse lei. «Ma come?» «Te l'avevo detto che ho mira. Adesso ti tocca mangiare un lombrico!» Lui la guardò di nuovo. Quel tiro sensazionale gli aveva fatto dimenticare la scommessa. Lei si avvicinò al fagotto dei lombrichi, lo raccolse e lo porse al ragazzo. «Se vuoi puoi sceglierne uno non troppo grande.» «Maledizione!» replicò lui. Prese il fazzoletto dalle mani di Elena, lo appoggiò al suolo e lo aprì con attenzione. La piccola montagnetta crollò leggermente alla base e uscirono decine di vermi che si muovevano in cerca di un po' di buio. Si mise una mano sulla bocca e chiuse gli occhi per un istante. Doveva decidersi: raccogliere tutto e scappare a gambe levate, oppure farsi coraggio, scegliere un lombrico e mangiarselo. Ci pensò su un poco. Poi decise che per nessuna ragione al mondo avrebbe fatto la figura del vigliacco davanti a lei. «E va bene», disse. Prese un verme, stringendolo tra l'indice e il pollice della mano destra. «Cosa fai, non lo lavi?» chiese lei provocandolo. «Per favore!» I due erano a non più di un metro di distanza. Lui con il volto terrorizzato e un lombrico tra le dita, lei con le mani sui fianchi divertita da ciò che stava vedendo. Odino la guardò per un attimo e disse «Maledetta!» Poi inclinò la testa all'indietro, aprì la bocca e si portò il lombrico sopra la faccia. Rimase fermo così qualche secondo, poi lasciò cadere il verme. Passò un attimo, anzi, molto meno. Elena gli aveva chiuso la bocca con la mano poco prima che il lombrico entrasse. Il verme si agitava sul dorso,

romanzo storico ambientato a Bologna sugli Appennini dal 1937 al 1946. Racconta la storia di tre personaggi attraverso tre piani narrativi distinti. Il primo segue il corso degli anni e ha come protagonista Elena Beltrami, ragazzina di famiglia benestante, con il padre fascista, che decide di aderire alla resistenza per diventare partigiana combattente. Il secondo si sviluppa in una giornata, il 17 aprile 1945, e racconta di Anima, cecchina partigiana appostata nei boschi per uccidere Walter Reder, comandante del battaglione SS, responsabile delle stragi di Montesole. Il terzo è il racconto del ritorno in città dopo tanti anni di un soldato partito per la guerra. È ambientato a Bologna la mattina del 25 luglio 1946. Solo nel finale i fili narrativi si collegano e completano la storia. Aprile 2020. Agenzia X presenta Maratona di lettura su Radio Virus. Trasmissione del testo integrale con 55 lettrici e lettori di La carezza e la mitraglia, romanzo di resistenza a Marzabotto di Massimiliano Gollini, la storia di una ragazza che diventa cecchino in un gruppo di assalto partigiano. Audiolibro musicato in 5 puntate da martedì 21 al 25 aprile su Radio Virus a partire dalle 21 del 21 aprile. Buon ascolto. Aprile 2020, maratona di lettura con La carezza e la mitraglia. Legge Valerio Canè. 25 luglio 1946, giovedì, ore 10:07. Il giorno in cui tornò, il treno raggiunse un binario morto e lì rimase senza aprir le porte. Il caldo atroce che l'aveva accompagnato per tutto il viaggio si fece ancor più denso, la sensazione di vuoto ancor più profonda. I suoi compagni di viaggio erano persone di ogni tipo, donne con bambini al seguito, uomini anziani con lo sguardo fisso. Il giorno in cui tornò non era un giorno per soldati. I soldati non c'erano più. Chi era sopravvissuto aveva fatto ritorno a casa e adesso era una persona come tante, comunque sempre in guerra. Una guerra diversa, dove uno strano ottimismo riempiva i piatti all'ora di cena. Dai discorsi che aveva sentito nel vagone sembrava che la guerra non ci fosse mai stata. C'era chi discuteva di politica citando nomi di persone sconosciute, chi raccontava delle imprese al Giro d'Italia. In giugno c'era stata la Prato-Bologna e Coppi era arrivato primo. Bartali, però, aveva vinto il giro. Si toccò con la mano sinistra la gamba ferita. Un brivido freddo la percorse e lo sentì fino al petto. Il giorno in cui tornò, guardò fuori dal finestrino in cerca di qualcuno in cui riconoscersi, ma la vista si perse. Nessuno si accorse che era lì. Chi lo aveva guardato aveva visto solo la prima pelle. 25 aprile 2020, maratona di lettura da La carezza e la mitraglia. Legge Stefano Toffanin. 20 ottobre 1938, martedì, Elena. Quella mattina di ottobre, all'alba dei giorni bui, Elena si appoggiò alla fontana e guardò i pesci rincorrersi. Era di un umore sospeso. Aveva passato un'estate solitaria, un po' a casa e un po' in collina dagli zii, insieme ad Elsa. Erano state mandate fuori città per dare un po' di riposo a Maria. Da qualche mese la madre non stava bene, sembrava essere affaticata e tossiva molto. Il medico, che Umberto aveva fatto venire una volta alla settimana per tutta la primavera, diceva che l'aveva colpita una forma leggera di polmonite. In quel periodo non aveva visto né Albertina né Odino. Tina era andata dai parenti a Rimini, come tutti gli anni, mentre Odino sembrava essersi eclissato. Gli aveva scritto due lettere, portandole direttamente all'orfanotrofio San Lorenzo, ma non erano arrivate le risposte. Non sapeva proprio cosa pensare. Per fortuna la scuola era appena ricominciata e alla prima occasione ne avrebbe parlato con Albertina. Il divieto di Umberto di frequentarla non poteva certo valere per le ore scolastiche. Ripensò al luccio pescato l'anno prima. I ricordi si accavallavano. Si accorse che nella sua memoria c'era una vita parallela a quella che stava vivendo tutti i giorni. Si componeva per immagini e saltava da un momento all'altro, incurante del tempo che passava tra le diverse scene. E le immagini a cui teneva di più erano le fotografie dei brevi periodi passati con Odino. In classe avevano conservato i posti dell'anno prima. Il suo era vicino alla finestra, in quarta fila, mentre Albertina occupava il banco alla sua destra. Davanti avevano tre file di compagne, la cattedra e la lavagna, dritta su un robusto piedistallo di legno. Sulla parete di fronte c'era la foto di Benito Mussolini, il cui mento ostentava orgoglio. Ogni tanto Elena si incantava su quella foto. Era molto simile a quella che Umberto aveva voluto appendere nell'atrio di casa, per assicurarsi che tutti la vedessero. Più la guardava e più si convinceva che in quel viso c'era qualcosa che non andava. A parte il mento, così in evidenza da risultare ironico, c'era lo sguardo. Era ciò che più la colpiva. Mussolini aveva diversi sguardi, quello fiero, quello invasato che usava durante i comizi e quello etereo e malinconico con il quale guardava al futuro. Con tutto l'impegno che ci metteva nel cercare di allinearsi ai più, non riusciva a prendere sul serio quell'uomo. Era una questione emotiva che andava oltre a qualsiasi pensiero razionale. Albertina appoggiò la cartella, sistemò il colletto del grembiule e si girò verso Elena. «Come stai?» chiese. «Mica male, tu? Mica male anch'io. La Morandi è ancora in ritardo. Quella non è mai puntuale, dovrebbero licenziarla. Figurati. Come sta tua mamma?» «Oggi un po' meglio. Tossisce meno e ogni tanto esce in giardino. Molto bene. A casa tua, invece, come vi siete organizzati?» «Così è così. Da quando non lavora, mio padre è diventato molto nervoso. Però va bene, andiamo avanti.» «Non è giusto», disse Elena a denti stretti. Albertina le prese la mano e la rimproverò con gli occhi. «Così stanno le cose. Stai tranquilla.» «Non sono capace di stare tranquilla. Zitta, che entra la Morandi.» La professoressa Maura Morandi entrò dalla porta con una strana espressione in viso. Sembrava che avesse paura di qualcosa. Lanciò la borsa sulla cattedra e, senza togliersi cappotto e cappello, si appoggiò con le mani sul tavolo, scrutando la classe in silenzio. Le ragazzine non sapevano cosa pensare. Si guardavano tra loro, aspettando un segno che però non arrivava. Qualcuna iniziò a ridere, mettendosi una mano davanti alla bocca, ma la maestra lanciò loro un'occhiata così severa che furono costrette a ingoiare il buon umore come fosse olio di ricino. Distinto, Elena afferrò la mano di Albertina e la portò sotto il banco. «Fate silenzio!» disse all'improvviso la Morandi. «Che nessuno si muova! Vi alzerete dal banco solo quando ve lo dirò io! Sono stata chiara? Non dovete fare commenti, non dovete proprio parlare. Chiunque di voi aprirà la bocca andrà dritta dal preside!» Poi fece il giro della classe, con lo sguardo, soffermandosi un'eternità su ogni volto. In quel momento entrarono due uomini, Erano accompagnati da un bidello e non bussarono. Entrarono e basta, senza dire niente e senza guardare in faccia nessuno. Avevano una loro eleganza particolare, forse un po' costruita, ed Elena notò subito che portavano la spilla del partito fascista appuntata al petto. Uno dei due era alto e robusto, con un'espressione solenne. L'altro era più basso e rotondo, portava un paio di baffi con una punta a ricciolo e per quanto si sforzasse di assumere un tono ufficiale, non riusciva ad essere credibile. La maestra si voltò verso la classe e disse «In piedi!» Tutti si alzarono. Albertina cercò di liberare la mano perché voleva mettersi sull'attenti, ma Elena strinse ancora più forte e non lasciò la presa. Dopo un attimo di silenzio, Maura Morandi sollevò il braccio destro e indicò Albertina. Tutti si voltarono in cerca di una spiegazione, mentre i due uomini lasciarono la cattedra e raggiunsero il banco, sistemandosi lì, accanto, con aria solenne. Elena iniziò a tremare. Il fiato si fermava nel petto, si incagliava tra le costole, diventava incandescente. La forza venne meno e fu costretta a lasciare la mano dell'amica. Fu come in uno dei suoi sogni. Il suo corpo non riusciva a interagire con quello che gli occhi vedevano ed ebbe l'impressione che qualcuno avesse ricoperto con uno spesso strato di velluto le pareti e il pavimento. I suoni si perdevano. I due fascisti presero Albertina per un braccio e la invitarono a seguirli. Quello più tarchiato prese la cartella e il cappotto. Arrivarono alla porta di passo svelto e uscirono chiudendosela forte alle spalle. «Sedute!» ordinò la maestra. Le alunne obbedirono, ma non Elena, che rimase in piedi. «Sedute, ho detto!» L'urlo arrivò fino in fondo alla stanza e finalmente Elena guardò la Morandi. «Dove la portano?» chiese. La rabbia uscì con un sibilo insieme alle parole. «Beltrami!» «State seduta senza fare domande!» «Ma ditemi dove la portano!» ripeté. La Morandi percorse lo spazio che divideva la cattedra dal banco di Elena quasi volando. Si gettò su di lei con tutta la sua mole e urlò ancora «Seduta!» Poi la colpì sulla schiena con la bacchetta che teneva in mano e lo fece con una tale forza che l'asticella di legno si spezzò in due. Guardò Elena negli occhi e ripeté ancora «Seduta!» Ma Elena non obbedì. Il mondo era una gabbia di bestie feroci. La rabbia esplose. Arrivò dal centro alla superficie con una velocità che non poteva essere gestita. Fu molto più potente di quella provata nel laboratorio. Fu un milione di volte più potente. Prese la cartella che aveva accanto e con un urlo colpì la maestra in faccia. Il colpo fu doloroso, ma più forte fu la sorpresa. L'insubordinazione non era contemplata né in quel momento né mai. Le cose però avevano preso il loro corso e non si potevano più fermare. Con una spinta della spalla mandò la Bonandi a colpire il primo banco dell'altra fila. Maria Nanni, che occupava quel posto, si trovò la maestra tra le braccia, crollata come un castello di carta. Poi lanciò un urlo in faccia alle compagne, raggiunse la porta e corse fuori. La camionetta Fiat era ferma davanti a scuola e lì attorno una decina di persone stavano parlando animatamente, mentre dai portelloni aperti sul retro si vedevano tre figure che Elena riconobbe subito. Uno era Marco De Paz, di terza, poi c'era Mariolino Luzzato, di seconda A, e di fronte a loro sedeva il professor Gian Giacomo Lerner. Si guardò attorno e finalmente vide Albertina. I due fascisti la tenevano per la braccia, ma non la stavano trascinando. La accompagnavano al furgoncino e lei non faceva resistenza. La chiamò, ma la voce uscì senza forza. Corse attraverso il cortile e si fermò davanti al gruppetto di persone, con il fiato corto e il cuore in gola. «No, Elena», disse Albertina, «torna in classe». Quelle parole furono una pugnalata alle spalle. Non era possibile che fosse così remissiva, che non provasse a ribellarsi nemmeno un poco. «Albertina!» balbettò lei. «Torna in classe, Elena. Torna in classe e basta». «No! Non peggiorare le cose. Torna in classe». I due uomini ripresero la marcia, spinsero Elena di lato senza guardarla, raggiunsero il furgone e sistemarono Albertina tra i due ragazzini. Poi salirono davanti con il più alto al posto di guida. L'automezzo partì con uno sbuffo nero di candelette sporche. Elena asciugò le lacrime e deglutì sale. Per un attimo guardò la camionetta allontanarsi, poi ricominciò a correre. Albertina si avvicinò ai vetri posteriori, ma subito girò lo sguardo e si appoggiò allo schienale. La scena durò una manciata di secondi, poi il mezzo acquistò velocità, voltò a destra per una via più ampia e lasciò Elena sola in mezzo alla strada. Si fermò un attimo, non avrebbe mai potuto raggiungerli. Guardò la città attorno a sé, sentendosi in gabbia. L'adrenalina pompava il sangue nei muscoli con una violenza tale da impedirle di stare ferma se avesse avuto un sasso a portata di mano. L'avrebbe tirato, ma non vide pietre. Così riprese la corsa. Attraversò la strada, girò verso sinistra, poi a destra, poi ancora dritto. Non smise di correre per un attimo infinito. Le vie si sovrapponevano, i palazzi sfumavano, le persone, le macchine che passavano, tutto sembrava appartenere a una cartolina in movimento. Solo la strada che aveva davanti rimaneva immobile. Dopo 20 minuti di affanno raggiunse l'orfanotrofio San Lorenzo. Si fermò davanti al portone d'ingresso e con entrambi i pugni iniziò a battere sul legno. Ogni colpo era un tonfo del cuore. Non si fermò neanche quando, dall'altra parte, qualcuno fece scattare la pesante serratura e con molta fatica tirò l'anta verso l'interno. A volte ci si chiede quali siano i meccanismi che fanno girare le cose. Delle tante possibilità controllabili, il destino si prende sempre un po' più di spazio per improvvisare. Eppure lei non aveva dubbi, e fu per quello che corse fin lì. Aveva bisogno dell'abbraccio che non era ancora riuscita ad avere, e quando Odino si spostò di lato per farla entrare, cadde in avanti, e per un attimo la vita si fermò. Aprile 2020, maratona di letture da La carezza e la mitraglia, legge Yvonne Capace per Sblocco 5. Aprile 1945, martedì, ore 8:54, anima. Muovendosi molto lentamente, infilò la mano destra nella tasca della giacca e strinse il pezzo di carta che aveva portato con sé. Trovava rassicurante farlo ogni tanto. Era una busta e dentro c'era una lettera ripiegata 2 volte. Ogni tanto si dimenticava di averla. Altre volte aveva avuto la tentazione di aprirla. Era un amuleto. La conservava al sicuro e quando ne aveva bisogno la faceva girare piano tra le dita, come se da essa potesse strappare un briciolo di energia, quanto bastava per arrivare in fondo alla giornata. Non aveva avuto il coraggio di leggerla, per paura del contenuto, anche se ovviamente era curiosa, conservava quel segreto e lo nascondeva anche a se stessa. La guerra le aveva insegnato la pazienza. Tutto acquista un senso, se si ha la pazienza di aspettare che le cose arrivino al loro compimento. E il momento di aprire quella lettera non era ancora arrivato. Non tornò più a casa. Dopo aver deciso di aderire alla lotta partigiana, la trovava una scelta di coerenza, inutile girarci attorno. La vita che aveva fatto fino alla partenza era una vita che non riconosceva. Il mondo non era più lo stesso e piacesse o meno, le cose non sarebbero mai tornate come erano prima, mai più. Il contatto con quello che restava della sua famiglia si era perso e il legame con la città era mantenuto solo dalle staffette che portavano tra i boschi notizie sparse. La lettera era arrivata da una di loro senza preavviso. Nel febbraio del 1945 la compagna Alice le consegnò quella busta dicendo solo «Questa è per te». Non aveva mai ricevuto una lettera durante quel periodo e nemmeno una notizia da qualche suo parente. Non che le avesse cercate, ma quando prese in mano quei fogli di carta ne percepì subito il peso. trasmesso da una leggera scarica elettrica che le aveva fatto tremare le dita. Aveva intuito che nella lettera c'erano tracce di un lungo viaggio, della vita di chi l'aveva inviata, chiunque fosse, della paura, della solitudine e anche del peso del tempo, e poi della sua vita passata. Non si sentiva ancora pronta per affrontare queste cose tutte assieme, e non era tutto. Aveva anche il sospetto che quella busta portasse con sé un nome che non voleva ancora pronunciare. Quando guardò verso il basso, Walter Raeder era fermo sul retro del casolare. Nonostante la distanza, lo riconobbe subito. Un uomo sulla trentina, con un'espressione stanca e scomposta, vestito con un'uniforme trasandata. Indossava la divisa di ordinanza con la giacca, ma senza il cappotto. Notò che non portava nemmeno il berretto. Aveva i capelli pettinati con la riga a destra, tenuti insieme da uno spesso strato di brillantina che li rendeva lucenti e compatti. Sembrava che avesse dormito con la divisa. E poi era privo dell'avambraccio sinistro, già lo sapeva, ma ogni volta che lo vedeva si ritrovava a pensare alle circostanze nelle quali era stato ferito. Non riusciva a smettere di immaginare, con un po' di soddisfazione, le pene che doveva aver sofferto il giorno in cui l'aveva perso. L'uomo si fece strada tra l'erba alta, arrampicandosi sul declinio. Si girò verso il faggio al quale era appoggiata e iniziò a guardare la collina, da sinistra a destra. Eccolo lì, il momento nel quale l'intero piano era messo alla prova. Lo stava aspettando. Non aveva paura, anche se dovette fare uno sforzo per continuare a respirare con regolarità. Si stavano guardando, ma lui non la vedeva. Si concentrò sull'immagine che il tedesco trasmetteva. Quell'eccesso di sicurezza e determinazione, quello sguardo che non voleva cedere il passo, che aveva ucciso e che avrebbe ucciso ancora. La guerra era finita ormai e la Germania aveva perso, eppure Raeder sembrava non accorgersene. Sentì il desiderio di prendere il fucile e sparare, valutò anche l'idea di impugnare la pistola che aveva nello zaino e correre verso la valle per colpirlo a bruciapelo. Voleva che Raeder la vedesse in faccia prima di morire, ma si trattenne. In quel modo non ce l'avrebbe fatta. Sarebbe stata uccisa dalla sentinella o da Raeder stesso e tutto sarebbe andato perduto. C'era bisogno di pazienza. Poi lui distolse lo sguardo e il momento finì. Si portò la mano destra alla bocca, lasciandosi andare a un vigoroso sbadiglio e con un gesto a lui consueto si slacciò la patta dei pantaloni, estrasse il pene e iniziò a pisciare. Aprile 2020. Maratona di lettura dalla carezza alla mitraglia. Legge Céline. Sabato. Elena. Ogni volta che lasciava quell'abbraccio era come se sradicasse le sue radici dalla terra. Ne percepiva anche il rumore, quel suono ottuso che si sente quando strappi una pianta alla sua origine. E poi quando si allontanava, indietreggiando di un paio di passi, provava una sensazione di freddo e di mancanza che la faceva rabbrividire. Elena aveva preso l'altezza del padre e a 14 anni era già qualche centimetro più alta di Maria. A vederle da lontano si sarebbe detto che fosse la giovane donna a proteggere l'adulta. Ma non era così, e lo sapevano entrambe. Sentirla tra le sue braccia, così gracile come era ormai da qualche mese, le dava un senso di vuoto senza fine. Eppure ne aveva bisogno. Aveva la necessità vitale di farsi stringere forte, di ancorarsi a lei, di piantare le braccia nella sua schiena, di lasciarsi trasportare per qualche secondo nella vita condizionata e protetta che le offriva sua madre. Dentro quella stretta c'erano gli odori, i racconti, i rimproveri, la sua voce prima di addormentarsi, e i ricordi, tutti i ricordi. C'era la vita, che passava veloce. Poi l'abbraccio finiva e tutto tornava al suo posto, ma almeno per un poco il mondo sembrava un luogo più sicuro. Gennaio splendeva di vita propria. Non c'era neve e la luce tagliente del sole illuminava la campagna lasciando tutto sospeso a mezz'aria. Nemmeno spingendo lo sguardo più lontano riuscivi a vedere la natura muoversi. Solo il vento freddo portava con sé i rumori soffusi della vita in attesa. Uscirono dal portone principale, scesero la scalinata e girarono attorno alla villa passando dal lato destro. Il noce Osvaldo sembrava un fantasma buono. Il lato nord del tronco aveva la corteccia coperta da un sottile strato di muschio verde chiaro, mentre dall'altra parte era di un grigio spento che in inverno diventava ancora più tenue. «Andiamo dietro, voglio vedere gli animali», disse Maria prendendo l'abbraccetto. «Se ci infiliamo nelle stalle sarà più caldo», disse Elena. Si accorse che Maria si appoggiava a lei con tutto il suo peso. Era la prima volta che lo notava. «Non voglio stare al caldo, Elena», rispose Maria. «Allora stavo in casa. E poi non vedi come sono vestita. Sembro un palombaro». Le due sorrisero appena e continuarono a camminare con lentezza. Attraversarono il giardino sul retro passando accanto al punto esatto nel quale Elena era atterrata qualche tempo prima, la mattina nella quale era scappata per raggiungere Odino al molo. Poi arrivarono alla rimessa, dove il fattore teneva le macchine e gli attrezzi per il lavoro nei campi, e infine alle stalle. Si avvicinarono ai box e videro le teste dei tre cavalli spuntare dai cancelli. Erano due baio e un sauro, gli ultimi rimasti dell'allevamento di Umberto. Ogni tanto li montavano per delle passeggiate, ma sempre più di rado. «Allora, Elena, vuoi dirmi che c'è?» chiese Maria senza guardarla. Stava accarezzando il morbido naso del sauro e lui glielo lasciava fare senza porre resistenza. La guardava con quei suoi occhi malinconici, mentre il possente respiro si condensava in grosse nuvole di umidità. Elena si era preparata a 100 risposte a quella domanda. In fondo erano lì per quello, lo sapevano entrambe, ma sul momento si trovò senza parole. Così arrivò al punto, senza indugi. «Io li odio i fascisti, mamma, li odio». «Elena, parla piano, o farei venire un accidente a tuo padre», disse la madre guardandosi attorno. «Che gli venga un accidente, allora». Maria si voltò verso la figlia e con un gesto rapido fece partire una sberla che la prese sulla guancia sinistra. Non fu un colpo forte, una specie di carezza da gigante. «Guai a te se manchi di rispetto a tuo padre. Sono stata chiara? Tutto quello che hai lo devi a lui, che ti piaccia o no». La fissò con lo sguardo severo. Poi però gli occhi si addolcirono subito. «Scusami», disse Elena. «Non ti preoccupare, non fa niente. Io ti capisco». «Davvero?» «Certo, cosa credi? Pensi che io approvi quello che fanno con gli invasati? Credi che non capisca quello che ha subito la tua amica Albertina? E quel bamboccio del re li lascia fare. Suo padre si starà rivoltando nella tomba». Elena si allontanò un poco per vedere la madre con un certo distacco. Stentava a credere a quello che aveva sentito. Stentava a credere a quello che sentiva. E d'istinto aveva cercato un punto di vista più distaccato. «Grazie, mamma», disse. «Ciò non toglie che tu debba portare rispetto a tuo padre». «Va bene», disse. Ma non era convinta. Poi aggiunse: «Devo dirti anche un'altra cosa». «Cosa?» «Io Albertina la sto continuando a vedere». «E come? Quando?» «Umberto ti ha vietato di giovedì pomeriggio. Voi pensate che io resti a scuola per la ginnastica. Invece sono a casa sua e le faccio lezione. Non c'è ginnastica a scuola giovedì pomeriggio». «Ma Elena!» «Lo so, vi ho raccontato una bugia, mi spiace. La mattina lei va alla scuola ebraica, ma non basta. Prendo appunti che poi le lascio e le do anche i compiti della settimana. Li correggiamo insieme». Maria coprì la bocca della figlia con la mano. «Zitta! Fai silenzio, Elena! Fai silenzio! Mamma!» Ma la madre spinse più forte sulla mano e le parole si fermarono sulle labbra. «Se tuo padre lo viene a sapere!» Elena si liberò dalla presa e indietreggiò di un passo, guardandola severa. «Lui non lo verrà a sapere, vero mamma? Non c'è bisogno che lo sappia. Io non sto facendo male a nessuno, ma non c'è una legge che vieti di...» «Che ne sai tu della legge, Elena? Che ne sai?» «Lui non deve saperlo», sussurrò. La madre resse lo sguardo per qualche secondo, poi la abbracciò, questa volta con una stretta più sicura. Anche se provò a non insistere, Elena non riuscì a stare zitta. Un grumo di rancore le premeva contro lo stomaco e in qualche modo doveva liberarsene. Le parole uscirono in un sussurro. «Lo sai, mamma, che non può andare in biblioteca, al cinema, non può andare in vacanza. In vacanza! Hanno fatto chiudere il negozio, neanche i bambini!» Poi la voce si ruppe. Continuammo a fatica. «Dovremmo essere a scuola, mamma, a scuola, a imparare le cose. E invece...» «Ma ci va a scuola, Elena!» la interruppe Maria. «Non basta, lo vuoi capire? Hanno tolto gli ebrei dall'elenco telefonico. Via dei Giudei adesso si chiama Via delle Due Torri. Non può più nemmeno fare sport. Con cosa vivranno, eh? Con cosa vivranno se non possono neanche lavorare?» Quelle domande vagarono per un po' lì attorno, senza arrivare da nessuna parte. Maria strinse l'abbraccio con più forza, coprendo ancora la bocca della figlia con la mano. Sembrava che volesse fermare l'urlo, rigettare la disperazione, che volesse fermare il tempo. E a quell'abbraccio Elena non riuscì a opporre resistenza. «Tuo padre non lo saprà», disse Maria. «Ascoltami, non lo saprai, capito? Non lo saprà da me, stai tranquilla. Non lo saprà nessuno, non lo saprà mai nessuno». Rimasero lì in silenzio, aspettando che i loro cuori rallentassero il ritmo. Ma attraverso i cappotti Elena sentiva quello della madre correre senza sosta. «Tu, Elena, sei una stella cometa, lo sai?» «Cosa significa?» chiese tra le lacrime. «Significa che viaggi da sola. Sei sempre stata così. Puoi sempre fare di testa tua. O ti si prende come sei, o ti si lascia andare, vero?» Le due si guardarono e si sorrisero. Elena aveva asciugato le lacrime con il dorso della mano e tirato su col naso più volte. Si era svuotata di un peso, ma non era ancora finita. Cercò di ricomporsi, si allontanò di qualche passo e solo quando se la sentì disse: «C'è un'altra cosa, mamma». Questa volta cercò di attenersi scrupolosamente al piano. «Oddio, non voglio sapere». «Ma io devo dirtelo, e io non lo voglio sapere. E come si fa allora?» «Come si fa? Che tu stai zitta e io non chiedo». «Si chiama Odino», disse all'improvviso. E il fosso era saltato. «Zitta! Andiamo, mamma, non sono più una ragazzina». «Ah no? Beh, tesoro, io non sono abbastanza vecchia allora. E non voglio sentire altro. Si chiama Odino, tant'è, il resto me l'immagino. Figurati, sono stata giovane anch'io». «Mamma, ma cosa pensi?» «E a cosa devo pensare? L'ho conosciuto l'anno scorso. Che meraviglia! Ci siamo scritti qualche lettera, ma non ci siamo più visti fino a settembre. Veramente io scrivo lettere, lui manda cose, non sa scrivere proprio bene. Ah, meraviglia delle meraviglie! Vive all'orfanotrofio San Lorenzo, ha fatto le scuole con le suore, ma solo fino alla terza elementare. Adesso lavora lì, non ha i genitori». «Adesso svengo», disse Maria mettendosi una mano sul petto. «Così viene anche lui a lezione di pomeriggio. Gli sto insegnando a scrivere praticamente, lo vedo lì, tutte le settimane». «Elena, devo sedermi. Dammi il braccio. Dai, mamma, tu mi vuoi far morire», disse Maria, ma stava ridendo. «Allora potrei darti una botta in testa. Oh, beh, me l'hai data la botta in testa. Non so se te ne sei accorta». «Non è vero. Fidati». «Insomma, e lui ti vuole bene? È gentile?» «È tutto a posto, non preoccuparti. Siamo solo amici». «No che non siete solo amici», disse Maria. «Beh, più o meno, siamo solo amici. Oh, Gesù. Lo vedo solo a casa di Albertina, non ci siamo neanche baciati, figurati». «Zitta, Elena, zitta, ho capito, va bene così». Guardò sua madre con tenerezza. Oltre a lei e ad Albertina nessuno sapeva di Odino e le cose dovevano restare così. Aveva avuto bisogno di parlarne per il semplice motivo che la amava troppo per nasconderle qualcosa di così importante. «E gli insegni a scrivere?» chiese la madre. «Faccio quel che posso, non sono brava come insegnante». «Secondo me ti sbagli». «Non credo. Comunque non ci sono grossi risultati, almeno sono su di lui. Albertina invece è brava di suo». «Dagli tempo, imparerà», disse Maria. Camminarono in silenzio per un po', tornando verso la villa. Elena si concentrò sul paesaggio. Non si sentiva neanche il rumore dei loro passi sulla terra gelata. Poi Maria si fermò e disse: «Ascoltami bene, dimmi». «Elena, aspetta, fermati e guardami». Lei si fermò proprio davanti alla madre, che le prese le mani. «Non dire niente a nessuno di tutto quello di cui abbiamo parlato. Non ti dirò di non andare da Albertina, tanto non servirebbe. Ma stai attenta, mi capisci? Stai attenta. Non ti preoccupare, mamma». «Non di sciocchezze, come faccio a non preoccuparmi? Qualcuno potrebbe non capire quello che stai facendo, quindi stai attenta». «Va bene, starò attenta. E voglio che tu mi dica come vanno le cose, voglio essere informata». «Va bene». «E voglio sapere quando ci vai, non mentirmi mai e non nascondermi niente, hai capito?» «Sì». «Se rispetti queste richieste, allora io non dirò niente a tuo padre e ti lascerò fare quello che vuoi, almeno finché sarà possibile. Questo è il nostro patto, Sarai capace di rispettarlo? Sì. Ormai sei grande, Elena. Comportati come tale. Maria la guardò per un tempo che Elena non riuscì a calcolare. Si rese conto per la prima volta della serietà di ciò che stava facendo con Albertina, ma pensò a Odino e non ebbe paura. «Inizia a sentire freddo», disse Maria. Poi si avvolse meglio nello scialle e prese a braccetto la figlia, riprendendo il cammino. «Come hai detto che si chiama?» domandò. «Chi? Quel ragazzo, l'analfabeta. Non è un analfabeta. Questo lo vedremo. Come si chiama?» «Odino». «Odino?» «Sì. E vive con le suore?» «Sì, questa è bella». «Perché?» «Odino è il padre degli dèi nella mitologia nordica. In Germania, per cominciare». «Ah, perfetto. Sono un branco di zoticoni». «Chi?» «Gli dèi nordici». «Non è vero». «Che ne sai tu?» «Beh, me l'immagino». «Il fatto che te l'immagini non significa che sia così», disse Maria. Elena aspettò un po' prima di rispondere. Due passerotti si appoggiarono alla staccionata lì accanto. «Me l'immagino. A me basta». Aprile 2020, maratona di lettura dalla carezza e la mitraglia. Per questa prima puntata, questa è l'ultima lettura. Elisa Petrolini per Sblocco 5, che è una compagnia teatrale di Bologna. Ore 9:43. Anima. Quando il giorno iniziò davvero, Anima si rese conto che l'intero piano era una follia. Almeno 10 soldati sembravano camminare con mete precise, di passo svelto, entrando nella rimessa, uscendone con attrezzi vari, poi ancora infilandosi nel casolare per ricomparire in una delle finestre aperte al piano superiore. E poi c'erano i civili. Perché non li aveva mai visti? Dov'erano tutti fino a un mese prima? Al centro della piazza c'era il militare robusto che aveva visto per primo quella mattina. Era come una grande boa. Coordinava il lavoro, indirizzava gli uomini in punti precisi per svolgere attività di cui lei non riusciva a capire il senso. Proprio davanti ai portoni aperti dei garage, i civili armeggiavano attorno a veicoli da guerra. E questa era un'altra novità. Erano comparse dal nulla, si erano materializzate sotto i suoi occhi. Occupavano uno spazio sulla terra che non doveva neanche esistere, per quanto ne sapeva. Eppure erano lì. E una di queste era il sidecar che aveva visto un paio d'ore prima. Lo stesso uomo che l'aveva ispezionata spinse la moto fino al soldato boa e la fermò con un po' di fatica. Poi si portò sul lato sinistro e disse qualcosa al tedesco. Aveva in mano un pezzo di motore che lei non riusciva a distinguere, ma il civile lo mostrava al graduato con grande foga e un po' di orgoglio. Il tedesco lo scostò senza troppi complimenti, salì in sella, si alzò sugli stivali e con un gesto poderoso spinse verso il basso la leva di ascensione. Il motore si avviò con uno scoppio, perse qualche colpo, ma subito dopo iniziò a girare come se fosse nuovo. Ci fu un momento di festa generale. I soldati che stavano lavorando si fermarono e qualcuno si avvicinò al mezzo mentre il soldato giovane e timoroso sollevò per un attimo lo sguardo dalle sue scarpe e abbozzò un timido sorriso. Poi tutti tornarono alle loro faccende, mentre il graduato inserì la prima marcia con uno schiocco secco, attraversò l'aia sollevando un gran polverone e sparì nel bosco in sella al sidecar. Decise che era arrivato il momento per togliersi le manopole e bere un altro sorso d'acqua. Impiegò almeno 10 minuti per i guanti e altrettanti per prendere dallo zaino la borraccia. Era una tortura muoversi in quel modo, ma non poteva fare diversamente, Loro erano così vicini. Si portò la borraccia alla bocca e mandò giù un sorso d'acqua. Doveva sforzarsi di non bere molto, giusto il necessario per non soffrire troppo la sete. Se il bisogno di andare in bagno fosse diventato urgente, sarebbe stato un vero problema. Ricordò il giorno esatto in cui le era venuto in mente quel piano assurdo. Doveva essere stato dicembre, o forse gennaio. C'era la neve e la guerriglia, dopo il proclama, era in una situazione di stallo. Era arrivata la notizia che Rieder aveva fissato il suo quartier generale sulle colline dall'altra parte della valle, proprio di fronte al corno e alle scale, non troppo distante da Marzabotto e Montesole. Era una notizia terribile, che da sola spiegava bene che tipo doveva essere quel maledetto tedesco. Aveva ordinato lo sterminio di quasi 1000 civili in pochi giorni e poi si era arroccato tra quei monti, in quegli stessi boschi, tra quelle vallate solitarie. Senza pensarci troppo, Anima aveva camminato nella neve per tutta la mattina, seguendo il suo senso dell'orientamento, e raggiunto la radura dal lato nord. Fu solo per caso che si accorse del punto debole di quell'avamposto. Da dove era arrivata, riusciva a vedere solo il fronte della grande casa e parte della stalla, ma non a scorgere cosa ci fosse dentro l'edificio. Si era guardata attorno per qualche minuto, scorgendo subito un paio di tedeschi appostati di vedetta e una grande auto nera, probabilmente una Mercedes, parcheggiata nell'aia. Gli indizi davano indicazioni positive e anche l'intuito le diceva che quel luogo non poteva essere solo un rifugio per qualche tedesco sbandato. Così decise di tornare sui suoi passi per un centinaio di metri, voltare a est, attraversare il bosco e aggirare l'intero complesso fino al lato nord. Voleva raggiungere una parete spoglia che le avrebbe permesso una perfetta visuale dell'intera area, ma era completamente esposta e a quell'ora del giorno non poteva certo uscire allo scoperto. Così decise di nascondersi nel bosco, scavò una piccola buca nella neve e ci si stese dentro aspettando l'imbrunire. Impiegò molto per raggiungere l'altezza giusta e quando arrivò al centro del campo si rese conto che dietro i portoni chiusi di quell'edificio qualcuno stava lavorando. Restò lì finché non fu completamente buio e poco dopo sentì la musica. Non era nuova per lei. Qualche mese prima, in un appartamento abbandonato in un paese di montagna, avevano trovato una radio fuori uso, l'avevano riparata e avevano cercato Radio Londra. Il ricordo di quella musica proveniva da lì. Anima non poteva saperlo, ma era Wagner, una melodia tenebrosa e fiera al tempo stesso. Pensò che fosse bella, ma che stridesse con il paesaggio. Rimbalzava tra le montagne, seguendo traiettorie imprecise, come se quella parte di mondo la respingesse. Girò la testa verso il casolare e si accorse che la luce in una delle camere al quarto piano era accesa e la finestra aperta. Spostò il peso sul lato sinistro del corpo e con la mano destra prese il binocolo dallo zaino. La stanza era vuota. Sulla sinistra c'era un letto e contro la parete il grammofono stava diritto su uno scapello di fortuna. Quello che la colpì fu la vasca da bagno piena di acqua fumante. L'avevano messa ai piedi del letto e occupava tutta la parte di stanza rimasta libera. Dopo qualche minuto di osservazione, un uomo nudo entrò nel campo visivo da destra e si infilò nell'acqua calda. Era Rieder. Conosceva il suo viso fin troppo bene. Lo aveva visto anche in foto. E poi era privo del braccio sinistro, mozzato proprio all'altezza del gomito. Il sangue si condensò nelle vene. La soffiata era giusta. Spinse il binocolo così forte contro il viso che gli occhi iniziarono a farle male. Vedeva la faccia del tedesco. Era già rossa e compiaciuta. Anima cercò di calmarsi, ma non ci riuscì. Ridere era lì, davanti a lei, e non doveva far altro che andare a prenderlo. Pensò che se avesse avuto un fucile avrebbe potuto colpirlo in fronte senza problemi. Fu in quel momento che si rese conto che quel pensiero si poteva realizzare. Staccò gli occhi dal binocolo per vedere la scena nella giusta prospettiva. La distanza era già notevole, ma per avere un angolo di tiro migliore doveva allontanarsi ancora risalendo il declivio. Si guardò attorno. C'era un vecchio faggio proprio in mezzo alla radura, una trentina di metri più in alto. Sorrise e piano si stese sulla neve a guardare il cielo stellato. Era fattibile. Nei mesi successivi, lei e un paio di compagni avevano fatto qualche prova ricostruendo quella situazione su un pendio vicino al campo base. Nessun partigiano era riuscito a scorgerla da 100 metri di distanza. Solo quando si muoveva era visibile, altrimenti spariva tra le rocce. Aveva provato anche qualche tiro per capire con quale percentuale riusciva a colpire da quella distanza. Il problema era che, data la posizione alla quale si trovava rispetto al bersaglio, doveva sparare seduta. Era scomoda. Le venne in mente di procurarsi una forcella di legno sulla quale appoggiare il fucile e migliorare la stabilità del tiro. Provò e riprovò, e poi provò di nuovo. Con quel pezzo di legno da usare come supporto, avrebbe potuto colpire una formica a un chilometro, se solo fosse riuscita a vederla. Il piano era fattibile. Doveva solo occupare la sua posizione prima dell'alba e rimanere immobile fino all'ora di Wagner. Da quel momento erano iniziati diversi sopralluoghi, durante i quali si accorsero che Rieder era un abitudinario e metteva in scena quell'assurdo rito 2 giorni la settimana, il martedì e il giovedì, sempre alle 6 di sera. Il colpo sarebbe stato difficile, ma non impossibile. Avrebbe avuto bisogno di un buon fucile e di un po' più di allenamento, ma il campo di tiro era ampio e libero da ostacoli. Fissò per un po' il casolare e i soldati che si rincorrevano. Nel frattempo il tedesco con il sidecar era tornato dal suo giro di prova e la moto fu sistemata nuovamente nel garage. L'enorme soldato entrò nel casolare con un bel sorriso stampato in volto e per un po' non si fece vedere. Si accorse che le mani tremavano leggermente. Non era per il freddo e nemmeno per la paura. Era la tensione e forse una punta di stanchezza. Le infilò sotto le gambe e scavò con le unghie nella terra sino a farsi male, e quando le guardò portandosele davanti al viso, avevano l'odore e la consistenza delle radici di una giovane quercia. Aprile 2020. Agenzia X presenta Maratona di lettura su Radio Virus, trasmissione del testo integrale con 55 lettrici e lettori di La carezza e la mitraglia, romanzo di resistenza a Marzabotto di Massimiliano Gollini, la storia di una ragazza che diventa cecchino in un gruppo di assalto partigiano. Audiolibro musicato in 5 puntate da martedì 21 al 25 aprile su Radio Virus a partire dalle 21 del 21 aprile. Buon ascolto. La prima puntata della maratona di lettura con la carezza alla mitraglia finisce qua. L'appuntamento è sempre su Radio Virus, domani alle 21. Buon ascolto. And I